Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, eccoci qua, buona domenica. Oggi è domenica 24 settembre, sono le 14 in punto. Sapete che quest'anno Voice Anatomy, la terza stagione, comincia alle 14 e termina alle 16. Ma cominciamo subito a entrare nel vivo del programma, a chiacchiere zero, e presento immediatamente alla mia sinistra una bravissima attrice e doppiatrice che sono 2 anni che cerco di invitarla, ma lei era sempre incinta. E finalmente è qui, Alessia Amendola. Ciao Pino, ciao a tutti. Sei tranquilla? Sono tranquilla, non sono incinta, forse, chissà. Magari. No, basta. Faccio un test quando esco. Sì, non è il mio. Tuo marito ci sta ascoltando con le due creature. Sì, con le due creature. Quanti anni hanno adesso? 7 anni e 2 anni. Ho capito. 7 anni e 9 mesi, ma che dico? 9 mesi già. Eh sì, perché sì, quando ti ho chiamato è passato meno di un anno. Esatto, per cui eccola qui Alessia Amendola, insomma, figlia, nipote d'arte, però ecco, il doppiaggio aveva saltato una generazione. Claudio non è un doppiatore, Claudio Amendola è un grandissimo attore, autore, anche regista, ma non doppiatore, insomma. Non doppiatore, no, cioè, ci ho pensato io. Esatto. Si doppia lui, insomma. Lui si doppia, lo doppi tu, no papà? Lo doppio io, assolutamente, mi scurisco un po', insomma, però gli vado appresso facilmente quando serve. Esatto, per cui Alessia è veramente una grandissima attrice e doppiatrice, e raccontare quello che ha fatto, tanto si può dire quando si è nata il 27 febbraio, anche l'anno si può dire. Ma decisamente. L'84, anche perché è scritto... Sei un'attrice teatrale, doppiatrice, conduttrice radiofonica, vedi, eccetera, eccetera. Figlia ovviamente del grandissimo Ferruccio Amendola e di Rita. Nipote di Ferruccio e di Rita. E di Rita, nipote di Rita, esatto. Savagnone e Ferruccio Amendola. Hai vinto tantissimi premi, anche il premio del campione internazionale del doppiaggio. Insomma, hai vinto tantissime cose e te li meriti tutte. Quando grazie. Hai cominciato? Avevo 8 anni, il primo contributo nel 93, primo turno nel 93, ero piccoletta. Sì, eh? Indimenticabile. Chi t'ha chiamato? Momento. Renato Mori. Renato Mori. L'indimenticato Renato Mori. Già. Vabbè. Morgan Freeman e quant'altro. Il che mio Gimli del Signore degli Anelli. Sì, ma poi che persona, no? Noi eravamo lì piccoletti, eravamo in tanti, tu lo sai, nel doppiaggio si usa spesso, non sempre, non è detto, però si usa spesso cominciare da bambini, e c'era il direttore col quale lavoravi volentieri perché aveva un modo, un'umanità, una simpatia, e il direttore che ne aveva meno, quindi quando eri bambino contava tanto chi c'era lì dietro, no? Certo. Se avevi 8, 7, 5 anni, e Renato era proprio una festa. Che cos'era che hai doppiato? Erano i Robinson, ah. Guarda, mi ricordo proprio perfettamente, era una puntata dei Robinson ed era un bambino, sai che quando si è piccolo, le femminucce spesso doppiano i maschietti, i bambini, no? Sì, una volta, le signore anziane facevano i bambini. Esatto, come no, era un bimbetto che diceva un sì e un no. Questo dovevo dire. E essendo la primissima volta, non sapevo proprio da dove cominciare. Avevo la cuffia e sono andata appresso all'originale. Cioè in cuffia il bimbo diceva yes, e io dissi yes nella prima incisione. La cosa un po' angosciante era che c'era nonno Ferruccio seduto in sala con la sedia. Io ero lì al microfono con 3 panchetti e lui stava seduto sulla sedia che mi guardava. Quindi insomma, non è che proprio ero a mio agio. Ti sentivi, ecco, proprio tranquilla. Un pochetto osservata e no? Serena. Era nonno, ok, però era sempre Ferruccio, voglio ma dire. Che è successo a 17 anni con la macchina di papà? Questa è una curiosità. È successo, dire? Come no, uno scherzo che abbiamo fatto grazie a Scherzi a Parte. Ah, lì sei stata una bravissima attrice, hai rubato la macchina a papà, te sei fatta arrestare. La macchina dicendogli pure, papà, senti, quando poi lui arrivò lì arrabbiatissimo, ma che hai fatto, un incidente, hai investito un ciclista. Papà, senti, io volevo pomiciare col fidanzato mio, no, e non sono andata a scuola, va bene? Adesso è successo questo casino, aiutami. Ecco, andò così, a mio padre. Però c'era la municipale, insomma, un casino, il ciclista lì che rantolava per terra, quindi cercò anche di mantenere un contegno, insomma, però lo misi a dura prova sicuramente. Beh, è più difficile fare se stessi, come sì. Attori, non è una penso cosa proprio di facile. Sì. Senti, io mi sentirei una cosa delle tante tue, e proprio comincerei col lato positivo, dove tu doppi una straordinaria Jennifer Lawrence. Vai, eh? No, dico che bello perché sono stata diretta da Francesco Vairano. E... Eh sì, un altro grandissimo storico. Mio maestro assoluto. Sì, restando, ci ha accompagnato un po' a tanti. Ci ha insegnato un sacco di cose, ci manca tantissimo. E allora, no, è vivo, sta bene, sì, però si è tirato. Più, sì. Non lavora più, lasciato. Tu pure, c'hai 33 anni, ma hai fatto delle cose e potresti andare in pensione. Potrei. Purtroppo no, perché la legge, però se contiamo forse potrei, ma se ne parla ancora tra lunghi 20 anni. E dai, allora Jennifer Lawrence con la bellissima voce di Alessia Mendola, il lato positivo. Cominciamo con qualcosa di semplice. Parti da quell'angolo e vieni verso di me, attraversa la stanza. E possiamo fare qualcos'altro invece del ballo? Cazzo, mi prendi in giro? Sono bravo col martello, ti riparo qualcosa. Un accordo è un accordo. Lo so, va bene, stavo solo suggerendo magari, che so, un'alternativa migliore. Adesso tu cammini verso di me come se io fossi Nicky. E l'unico modo per mostrare quanto ti sono mancata è attraverso la camminata, attraverso una lenta camminata. Non puoi parlare. Solo camminare. Non lo faccio. Fallo. No. È stupido. Se non lo fai, niente lettera. Verso di me come fossi Nicky, avanti. Fallo. Sono Nicky, forza. E tu non sei Nicky. Non sollevare lo sguardo fino a metà strada. Così. Non ancora? Sì. Tu la senti? Questa emozione. Io non sento niente. È perché lui è ianzante. Non lui senti? È ianzante. Bradley Cooper è ianzante, che è anche la voce ufficiale di Radio 24. Infatti, ormai. Ho sentito. È lui. Ha detto: non mi rubare la voce ufficiale di Radio 24. Non sia mai. Ma giustamente. No, poi ci ascolta sempre. Ogni tanto interviene pure. È sempre arrabbiato poi con le persone che doppia. Non so, merita sto successo. Si mette a tu per tu con queste cose. Ah, ci abbiamo la cosa dei Robinson addirittura. Del Cobby Sue, cioè la voce, avete trovato la voce di... Ma non di quel turno, chiaramente. Avete trovato la seconda Rudy Robinson che ho doppiato io quando ero piccoletta, sempre. Sì. Sentiamo, poi ti riconoscerai. Sentiamo questi. La mamma dice che devo farti capire che credevo di aver sentito dire che forse vuole uscire con te sabato alle 3:00. Questa, credo, ragazzi, forse sbaglio, ma i Robinson hanno avuto due edizioni, diciamo, a un certo punto hanno cambiato cast. Io credo che questa è Federica De Bortoli, che la prima Rudy, immensa doppiatrice, secondo me. Io doppiai Rudy, già ero grandicella per come intendiamo noi doppiatori, avevo forse 12 anni. Ero grande, una cosa del genere, non mi ricordo. Credo che questa fosse Comunque Federica. Abbiamo avuto l'occasione anche per citare una collega straordinaria, Federica, poi la sorella anche, sono due bravissime che avremo presto anche loro ospiti. Vabbè, queste sono ricerche che io intanto ringrazio. Sono comunque delle chicche. Sì, certo, dall'altra parte del vetro Alessandro, tecnico del suono straordinario. Rachele, capo redattrice, i miei stupendi autori Mauro Meconia, che è il capo progetto, anche Alessia Navarro, che sono attentissimo, sono solamente la voce di tutto questo, dell'impegno di questo gruppo di lavoro, e saluto Milano per la messa in onda, ovviamente. Oggi devi sapere, mia cara e dolce Alessia Amendola, che è la festa di Jack LaMotta. Jack LaMotta, tu dici, ma chi se ne frega, non è parente mio. Insomma, Jack LaMotta è Toro Scatenato. Qualcosina mi sovviene. Toro Scatenato era doppiato magistralmente Robert De Niro da Ferruccio Amendola. Eh sì. Ora, risentire quel momento, beh, è facile, uno lo scarica da internet, eccetera. Io invece, vicino a me, ho un ragazzo straordinario, un attore, un doppiatore, che riesce ad imitare perfettamente le voci dei colleghi. E adesso lui non lo sapeva, e qui Maurizio Di Girolamo, che ciao saluto. A tutti. Ciao. Questa è la sua voce. Ciao. Questa è la mia. Un momento di Toro Scatenato, io vorrei che tu lo leggessi, magari se c'è una musica classica sotto, perché, nel film c'era Mascagni, la musica di Mascagni, però magari una musica classica sotto, e vorrei far tentare, a te chiudi gli occhi Alessia, chiudeteli pure voi a casa, ma non è televisione e radio, per cui già quello vi porta a chiudere gli occhi, vediamo che succede, perdonami Maurizio, io so, te lo do in questo momento come faccio con i colleghi, che sono bravissimi. A interpretare, ecco, quello scritto in neretto è un momento di Toro Scatenato, e allora con un po' di musica magari vediamo che succede. Mi ricordo ancora gli applausi, me li sento ancora nelle orecchie e me li porterò dentro per tutta la vita. Mi ricordo una sera levai l'accappatoio e cascò il mondo, mi ero scordato i calzoncini, ricordo tutti i KO, tutti i ganci, tutti i jab. È il sistema peggiore per fare una bella cura dimagrante. La mia non è stata una vita squallida. Anch'io ho avuto... Ma mi farebbe piacere sentirmi applaudire quando recito. Come fate con Laurence Olivier, quando recita Shakespeare. Un cavallo, un cavallo! Il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato a recitare «Se con Sugar si misurasse, chissà quante ne pigliasse». Per cui datemi un'arena, già che il toro si scatena. Perché oltre al pugilato, sono un attore raffinato. Questo è spettacolo. Beh, ragazzi... Bravo. Bravo. Le vocali, ci sono state sì. C'è stata qualche sillaba e qualche vocale veramente. Eh sì, sono anche le chiusure. Le chiusure, hai visto? Sì. Qui parliamo, chiusure, ecco, sì. Quell'esempio che facciamo sempre, che la voce è l'elemento di comunicazione più importante al mondo. Non è tanto la bella voce, perché poi nonno non aveva la bella voce, non era né tantomeno l'dizione pulita. La sua grande forza è stata quella di passare con grande semplicità sull'antieroe, cioè con sozzo di un uomo da marciapiede. Quel Dustin Hoffman così sporco, e andava comunque, quello nasceva in De Niro, gli Al Pacino, gli Stallone, che non erano i fini dicitori, Gary Grant e John Wayne, i belloni perfetti, cioè, Warren Beatty, eccetera. Ma serviva quella voce un po' sporca, buttata lì, ma con una dizione perfetta, perché lui riusciva a passare poi da una cosa di questo tipo a Thomas Millian, era voce volto, sembrava che Thomas Millian cubano fosse romano. Tanti hanno pensato per tantissimi anni. Come mando a Yahoo, qua siamo a voi salatumi. Che bello, no, è veramente le chiusure non è facile, perché noi ci giochiamo ogni tanto a giocare Ferruccio vicino al microfono e dire è tutto finito, sporcare le T avvicinarsi al microfono. Esatto, no? Però sai, quell'anima che c'è, lui riusciva a doppiarli tutti i grandi maestri, diverso. Sì. Nonostante era che la prima generazione del doppiaggio italiano. Esatto, che quello. Poi è quello che secondo me è la chiave più difficile delle tante tecniche che noi dobbiamo acquisire e che utilizziamo come doppiatori, cioè il, come si dice in gergo, l'incollarsi, no? Per sapersi incollare, cioè respirare con lui e beccare e andare ad attaccarci su quelle facce che non sono le nostre, cioè siamo dei doppiatori, facciamo in italiano ciò che attori non italiani hanno già fatto prima di noi, beccare, attaccarci lì, su quella faccia. Tu puoi avere anche la voce più bella e più giusta e la dizione più pulita, ma se sei scollato, come si dice, è lì che poi veniamo magari a volte massacrati. Però il doppiaggio, perché ti accorgi che c'è qualcosa di artefatto, no? Che non si incolla, non sei come nella si bocca. Dice. Non sei nella bocca, non sei negli occhi, poi soprattutto, esatto. Allora lì tana, libera tutti. Qual è il film che ti ha fatto spiccare il volo nel doppiaggio? Dov'è che c'è stato questo slide indoors? Guarda, è molto Marzullo questa cosa. Sì. Gli piacerebbe a Marzullo. Ma doppierò. Senti, no, fu un 8 donne e un mistero, un giallo. Bellissimo. Francese. Beh. Appunto, diretto da Vairano, io ero acerbissima ancora. Poi mi ricordo, cioè, facevo il liceo, arrivavo sempre tardi col mio zaino, col motorino, sempre bagnata, piavo la pioggia, attraversavo Roma, arrivavo. Ancora sì, ok, il lavoro, ci stavo dentro da quando ero bimba, però ancora. Eri la giovane delle 8. Ero la giovane delle 8, tra l'altro l'artefice del delitto, poi, no? Certo. E ero sporca in tante cose, nella tecnica, anche nella voce. Francesco mi Francesco prendeva in giro. Sa cogliere questo, gira a favore. Era anche forse un momento in cui la voce stava cambiando, non lo so, era particolarmente afona, insomma, lui mi massacrava. E ci fu da lì, poi, vabbè, iniziò un rapporto di stima molto forte, e quello forse fu uno dei voli che poi ho spiccato, indimenticabile, perché poi stavo a Leggio con Melina Martello, per esempio, no? Che poi ecco, è rimasta. Beh, per 8 me 8 donne, 8 protagoniste, esatto. Insomma, non eravamo sempre in 8, però non si facevano le colonne separate, questo sicuramente. Eravamo alla vecchia International Recording, esatto. E Francesco mi massacrò e mi diede tanto. Lo senti, non posso dimenticare. Mi massacrò, lì esce fuori l'alberone di cui parlavamo poco fa. L'alberone, che è una zona di Roma. Beh, anche questo è bello, no? Certo, che comunque tu riesci a pulire la dizione. Poi poi arrivi alle GIO e diventi improvvisamente perfettamente pulita. Oddio, esatto. Dici, ma questa è schizofrenia? Sì, è schizofrenia. Sì, è ovvio, la gente fa quando incontra le strade, fa, me fai la voce di... poi però se non c'è quella faccia o una caratteristica... Non è la stessa, non è la stessa cosa. Giusto. Io non mi posso mettere a fare Aragorn sul motorino. Cioè, non viene bene, non viene Aragorn figlio di Aragorn, ma viene Pinuccio figlio d'Armandino. Esce fuori... De Monteverde esatto, sempre, no? Esce fuori quell'altra cosa. Poi se c'hai la caratteristica, dico Borat, allora va bene. Wow, wow, wow, wow, certo. Allora ci sta, lo ricordi, ma gli altri film come fai Ellen Page? Come, lì poi proprio capito? Non te puoi appellare a niente, assolutamente. Io poi non doppio i caratteri, non mi è mai capitato di fare qualcosa di riconoscibile appunto come carattere. Quindi quando mi dicono mi fai la voce di quella che magari è una normalissima ragazza protagonista di una serie, tu dici mo che me invento. Allora ti imbarazzi e dici no grazie, non me la sento. Magari passi pure da spocchiosa, ma in realtà veramente semplicemente no, sei ricordi, in imbarazzo, certo. O non sai come farlo. Che serie stai doppiando? Dove sei? Perché allora, nei film sono molto ferrato, ma nelle serie sono così tante ormai. Guarda, io ti dico, in realtà ti dico quelle a cui sono più affezionata, che sono tutte finite pochi mesi fa, e sono state New Girl che va su Fox. Bellissimo. Che mi ha per 5 anni veramente fatto divertire tanto. Two Broke Girls, sempre della Fox, sempre insomma serie comica divertentissima. E io adesso mi sto sinceramente dilettando con la direzione da un annetto. Questa ecco, è la novità oggi, non lo sapevo. Ma smetti. Allora adesso un po' me. Che grandissima Alessia Mendola. Ma smetti. Io posso parlare anche per tutte le variazioni del mondo per cercare di farsi prendere un provino. Sì, sì, mi stai chiedendo un provino. Siamo, appunto, sì. Giochiamoci adesso. Tu te la devi giocare solamente questa carta, con grande rispetto. Non posso sai. Fare un provino? Non lo so. Guarda, Baldini, ho segnato prima quando sono entrato. Sì, per anni Baldini è straordinario, è così, Ciuchino e quant'altro. No, veramente, mi ha mandato un messaggio un po' di tempo fa con la voce, siccome Nanni Baldini non può venire ospite, ma no perché non gli piace, sei vergogna, eccetera. Tantissimo. Oresta è riuscito a incastrarlo, ma Nanni non ci si riesce. Allora mi ha mandato un messaggio, lui fa... Come ma mio fratello è diverso, capisci Pino, quindi lui gli viene, gli dice vabbè vengo, io a me mi piacciono queste cose, io so più, insomma, c'ha la privacy mia, ecco. Io gli ho telefonato, è così, io ho telefonato, ho detto ma perché mi mandi questi messaggi? Io non ti ho mandato niente, ma era lui. Che miseria. No, ma perché lui non è un imitatore, è uno che caratterizza, esatto, lui è un attore. Però faccio doppiaggio e imitazione assieme, quindi ho naturalmente unito le due cose, al di là della mia vocalità. Non lascia il telefono Alessia, guarda come ha sentito direzione. Ma perché tra uno no? Per ma genere, perché no? No, poi io veramente non ti conoscevo prima, ho letto quelle cose, ma al di là della questo, voce di nonno. Tra l'altro, no, c'è una bella voce. Sì, che voce quella è inimitabile, va bene. Ecco, sì, però sì. Hai letto benissimo le cose che hai letto prima, insomma, al di là della voce di nonno. E Moga, Might così, Pino, piacere. Tu già... mi inviti qua che sturca che già stava facendo pranzo con che a Napoli facciamo cioè, la pizza una fetta per volta, no? Mi mette a fare tutto. Quindi poi cioè, da Napoli a Roma piglio treno freccia rossa 1000 che la va più veloce, invece va uguale, cioè, già capisci. Però è bello che studio, mi piace proprio, cioè sta tutta così mi fai sentire male. Bravissimo. Proprio oggi su Instagram, no, per fare pubblicità, ho messo una foto con Massimo, perché Massimo Troisi fu il primo che mi chiamò 30 anni fa, perché io giocavo a pallone soprattutto e ero prestato alla carriera dell'attore. Ma veramente? Sì, giocavo in Serie C, per cui all'inizio, perché ho cominciato a fare l'attore in televisione, e qui ho urlato attraverso Rai 1. Mi sono giocato, dico chiamatemi nazionale calciatore, vi prego. Fatalità, c'era Gio Ciampa quel giorno, che era la fidanzata di Massimo ospite, io non lo sapevo, e Massimo mi chiamò a casa. Mia madre dice, è uno scherzo, è un amico tuo. Ovvio. E invece era Massimo Troisi che mi invitava ad andare a fare un provino con la nazionale calciatori, perché lui piaceva vincere e chiamava quelli forti, infatti con papà giocavamo insieme, ci siamo incontrati lì. E Massimo è una persona... Da lì ho cominciato ad amarlo, io ho sempre detto se fossi una ragazza io impazzirei. Cioè com'era lui? Perché... com'era era esattamente come nel cinema. Sai quando ti dicono sei uguale con quindi quella... un timido, semplice, carino, affezionato alla vita, al gioco del calcio, ci allenavamo 3 volte a settimana e facevamo una riunione a casa sua per parlare della squadra, amava questa, ti amava fa la Napoli vita. Lui era del ti Napoli, Napoli dice io mi dicono di fare il film, no fallo cavo c'è tua, però io non me, no sta... ma niente fa il suo film caso una volta sull'amore, ma a me non va, il concetto dell'amore mio è diverso, capisci? No, ma poi dicevo proprio io ho aspettato me va, c'è tre anni, quattro anni, non ho fatto già uno, piano piano. Sì, mi fanno film, cioè dieci anni, quindi sì, sta a casa, con calma. Esatto, fa... Ed era sì, meraviglioso perché era altruista e noi facevamo una partita a Napoli contro l'oro di Napoli, è l'apostrofo oro, oppure l'oro di Napoli, e c'era Maradona. E oggi ho messo su Instagram la foto mia fra coi capelli anni 70, anni 80, cioè una capoccia che non finiva mai, fra Massimo e Diego Armando Maradona. Mamma bellissima. Una fotona. Sì, ma poi Massimo abitava a pochi, a 300 metri dal Parioli, io stavo spesso al Teatro Parioli, dicevo Massimo vieni stasera. Vengo, metto la scena con la piscalca. Non veniva mai. Una volta invece mi chiamò, mi disse: prenotami tre biglietti. Siamo io, la fidanzata che c'era in quel periodo. Guagliono mie. Esatto. Che non, ma vieni, non mi ricordo, però. Vieni sicuro, Massimo. Ma vieni, non ti preoccupare. Stavo da città che vieni. Allora non ti preoccupare. Allora io vado a Parioli, dico a Costanzo, dico guarda, è tutto esaurito al teatro, ma viene Massimo stasera. Quindi facciamo tre posti liberi. Liberali, ecco. Liberato tre posti, quei tre posti sono rimasti vuoti. Non sono venuto. No, non sei venuto. Sono tornato a casa sua che abbiamo vicino. Dici dopo, dico Massimo, ma non sei venuto. Te ne sei accorto, hai visto? Ti faccio scherzo, hai fatto scherzo. Esatto. Noi andava ad uscire da casa. Però il giorno dopo siamo andati, che ne so, a Rieti a giocare a pallone, capito? Ok, ok. No, scusa questa ma cosa, che no, bellissimo, però grazie. È bello anche per questo navigare attraverso il mondo della come voce no, del cinema, ed è Massimo ha riaperto questa fantastico, ferita veramente. No, però è una ferita grande, insomma, sembra ieri, sembra bello, cioè, ricordarlo appunto. Sì, no, non bisogna mai dimenticare, mai questo, perché... è anche il mio modo appunto, poterlo fare con un mio grande modo rispetto, per, certo, assolutamente, ma è chiaro, ma certo, per omaggiare ogni volta li respiri. Io mi sentirei Ellen Page, questa bellissima bambina in Giuno, dove lei è incinta come te. Come me, ogni tanto. Un po' più, più piccola di te, anche se sei giovane, il primo figlio eri giovane pure tu. Sì, però non così giovane. No, lei 17 anni. Bellissimo film. Bellissimo. Allora, ascoltiamoci Giuno, un bellissimo film che vi consiglio come Otto donne e un mistero, se non l'avete visto. Mettetelo lì nel vostro DVD o DVD, che mi fa schifo dirlo. DVD non si può sentire. DVD. No, prossimamente in DVD. BDB. E i bambini a casa che si stanno guardando magari il film della Disney dicono che ha detto, no? Il DVD, DVD non si può sentire, un acronimo brutto così. Juno o Juno o Ellen Page, ascoltiamo Alessia Mendola. Veramente non so bene come spiattellarvela. Tesoro, sei stata espulsa? No, la scuola probabilmente vi avrebbe contattato nell'eventualità di una mia espulsione. Era solo una domanda, poteva essere plausibile. Cos'è? Ti serve una grossa somma, assistenza legale? Non sto chiedendo niente. Eccetto forse un po' di pietà. Tipo che sarebbe troppo bello se non mi picchiaste. Che hai fatto, John Bruco? Hai investito qualcuno con la macchina? No. Senti, credo che sia meglio che lo dici. E basta. Sono incinta. Oddio. Sì, ma voglio darlo in adozione. E ho già trovato la coppia perfetta. Pagheranno tutte le spese mediche e il resto. E fra... quanto? 30 e rotte settimane potremmo far finta che... Non è mai capitato. Sei incinta? Mi dispiace. Se vi può essere di qualche consolazione, ho una nausea che mi si irradia fino alle rotule e non riesco ad andare al cesso da... Mercoledì mattina, io... Non sapevo che fossi sessualmente attiva. Chi è il ragazzino? Il bambino? Ancora non lo conosco bene, so solo che... Cioè, tipo, ha le unghie, a quanto pare. Le unghie, davvero? Sì. No, io non... Chi è il padre? Giuno. Polly Blicker. Che meraviglia. La semplicità, guardate, ecco, questa è da applauso davvero, perché sai, quando c'è una caratterizzazione eccetera è difficile, ma è più facile, cioè come per interpretare un ruolo, appoggi un po' la tecnica, esatto, no? Sì. Secondo me per il film Awakening con De Niro e Robbie Williams la parte più difficile è quella di Robbie Williams, che fa il dottore. Cioè, semplicemente il dottore, sì, lì sì. Grandissimo Robert De Niro, che piano piano la sua malattia eccetera eccetera, ma credo che sia la semplicità, la verità eccetera, sia la più difficile da rappresentare in questo mestiere, che è quello dell'attore, non soltanto del doppiatore, tra l'altro. Sì, e questa c'era una bellissima, sì, prestazione, proprio bella bella. Beh, bella. Tu continui a seguirla Ellen Page, no? Sì, sì, mi capita di doppiarla sempre per fortuna, e tra l'altro è proprio brava e lo faccio molto molto volentieri. Ma adesso sì, tra poco ce n'è un altro, insomma. Abbiamo fatto una ventina di trailer di un film che doppieremo tra poco e sempre con lei. Si può dire il titolo ancora? Cioè, noi ci proibiscono pure questo, non si sa. Non si può dire. Sa. Noi non firmiamo ormai delle... Cioè, quando vai soprattutto in una serie tipo Il Trono di Spade, se tu dici qualcosa della puntata che ancora deve uscire, sei passibile, esatto, di denuncia. È vero. Cioè, te può denunciare pure un altro. Cioè, se io racconto a un amico mio per strada, senti, a montare Il Trono di Spade, non sai, lui diventa, che ne so, che l'amico in questione ti può denunciare. Telefona all'HBO e dice: guardate, Pinozzini mi ha detto come finisce la settima puntata. A me Mariana multa dei milioni di dollari. Ragazzi, però diventa come il maccartismo ormai. Cioè, meno, così firmiamo quello. Quando firmiamo... No, la riservatezza, ok. Addirittura quella... non sapevo che se magari ne parli per interposta persona, e quello lo mette su internet. Se tuo fratello devo punire, va a sapere, cioè, le famiglie. Io no? Certo. Solamente a mia moglie ho rovinato il finale di Downton Abbey, perché lei mi aveva rovinato il finale di Homeland. Ti sei vendicato? Sì, perché lo doppiavo io, doppiavo le ultime puntate, e la quarta stagione lei mi disse come finiva. La terza stagione, non possiamo dire, fa, di Homeland. Non lo sapeva, dice, stai vedendo Homeland, ah, figo. Ma poi no, non lo là, dire, non me lo dire. Ah, tu stai vedendo anche ah, ok. Sono molto indietro. Dice non una cosa dire. Del genere, mi ha detto quella cosa che potesse solo successa a quello. Ok. Ho detto, ma mi hai detto il finale, sto a fine della prima stagione, sono tutte e tre a casa. Allora, quando mi hanno chiamato per Downton Abbey, che è la serie che guardavamo insieme, ho detto, vabbè, quelle che doppio non le guardo più. Però ho visto che c'era proprio il finale in mano. Allora lì eri pronto. Sono tornato a casa, non gli ho detto niente, ho acceso il play perché ancora potevo registrare. Dico, senti se ti piace questo passaggio recitativo. E praticamente parlava con Elizabeth McGovern col finale tutto. No, perché Downton Abbey, sì. Ah, oh, scusa tesoro, perdono. E mi sono scazzato. Ci sta, ci ma sta. Dai, ci se sta, mi avessero sì. spoilerato Homeland alla fine, avrei fatto in qualche modo la stessa cosa che hai fatto tu. Sto per farlo. Stavi per farlo. Sto rovinando la tua visione. Esatto. Tu che serie guardi? Le guardi, sono belle, ormai ma la serie ha preso il posto dei film. Sì. Tu stai dirigendo un film e adesso? E che qualità? O una serie? Io ho diretto una serie, sì. E non posso dirti nulla. Niente, ma che te lo dico a fa? Vedi, che te lo dico a fare? Che te lo dico a fare era Riccardo Rossi, mentre il fascino era nonno. Sì. Che te lo dico a fare? Faceva Donny Brasco, chi era? Johnny Depp. Capito? Che cosa mi regali in voce? In voce? Dai. La tua? Ma un nuovo. Un nuovo ce l'hai, a me piace. No, allora, ragazzi, stanno arrivando tanti messaggi di ringraziamento, di saluti e di complimenti. 349-238-6666. Se volete partecipare in diretta, se volete, 800-24-00-24. Ovviamente anche oggi va avanti il nostro concorso Talent, quello, chiamatelo come volete, dei nostri amici che possono entrare nel mondo del doppiaggio, perché la Warner Bros. Con la quale stiamo parlando assiduamente ha dato la possibilità dei giovani attori o doppiatori di poter fare una piccola parte in un film. E poi daremo anche la data di chiusura di questa cosa, perché siete migliaia e i poveri autori, redazione, non ce la fanno a sentirvi tutti. Ovviamente c'è una scrematura e 6, 4, 6 barrotta puntata possono venire, però lo riurlo, quelli che sono fuori, ovviamente quelli stati scremati strada facendo, io personalmente insieme a tutti i miei collaboratori vi vedremo in un teatro di Roma, lo affitterò per un giorno, per due giorni, tutto quello che serve, e daremo la possibilità a tutti di potersi esprimere. Questo lo metto in campo io con tutto il cuore, che sono stato ragazzo anch'io, ho avuto possibilità e non possibilità, e voglio che tutte le persone che stanno tentando di regalarsi un piccolo sogno, non voglio essere quello che gli chiude il sogno, che abbiano uno spazio, non certo. voglio svegliarli, poi magari almeno ci tentare qua, però tentare, e lo voglio certo. fare, lo farò sulle mie spalle e quelle dei miei amici, dei miei colleghi, eccetera eccetera. Che mi regali? Mancano, no, però mancano pochi secondi alla fine di questo blocco, tanto rimarrà ancora un'altra tre ore Alessia Mendola, tranquilla. Quindi, e chiudiamo, andiamo in pubblicità con un altro momento magari. Ecco, Donnie Darko, un film bellissimo, non dico il nome del protagonista, che è Gillian, Jack Gillian, impronunciabile. Lei invece Jenna Malone, si lei può pronunciare facile. Donnie Darko, un altro film di fantascienza meraviglioso. Andiamo a quello e poi andiamo in pubblicità. Sì, hanno detto di uscire di casa e di raggiungere un posto sicuro subito. Sono terrorizzata, continuo a pensare, ecco, è successo qualcosa di orribile e... è stato il mio padrigno, lo so, lo sento. Ci sono delle persone che nascono con la tragedia nel sangue. Voi Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, al mio fianco, alla mia sinistra, Alessia Amendola, con la quale stiamo chiacchierando un po' di tutto, del cinema, del teatro, della televisione, del doppiaggio, beh, soprattutto il core business, come si dice in comunicazione, visto che siamo... Come? Core business, siamo a Radio 24, Radio Confindustria, poi io faccio il comunicatore, perché questo è il tuo core business è il doppiaggio. Ok, senso. Ah ok, core business, di... ma non lo sapevo. Ecco, non ti preoccupare, io ho fatto dei danni in comunicazione. E invece alla mia destra il bravo Maurizio Di Girolamo, che ci accompagna a questa fantasia di voce, come all'inizio, sì. Un Ferruccio Amendola fatto... meraviglioso, no, che è sempre vivo, certo è strano, no? Quelle cose, quelle voci che rimane vivo. Indimenticabile, dai. Ci stai pure un po' male. Noi abbiamo un pezzetto di Toro Scatenato, di Intoccabili, beh, quello che tutti urlano, non sei niente. Sentiamocelo, nonno. Vada nell'aula accanto dal giudice Hoffman, dove hanno appena cominciato una causa di divorzio. Voglio che porti quella giuria qui e che la nostra giuria vada di là. Ma di che sta parlando? Cosa ha intenzione di fare? Sceriffo, io desidero che lei scambi le giurie. Sì, signore. Vostro onore, mi oppongo. Obiezione respinta. Che cosa aveva detto al giudice? Che in quella lista c'era anche il suo nome. Ma non è vero, non c'era. Ehi, aspettate un momento, ma che vuol dire? No, questa è la legge, no, che sta succedendo? Lei faccia silenzio. Sta succedendo, non mi interessa quello che pensa, faccia qualcosa. Noi abbiamo il diritto. E allora perché mi ha preso? Faccia qualcosa. Ordine. Vostro onore, vorremmo ritirare la dichiarazione di non colpevolezza e dichiararci colpevoli. Colpevoli? Ordine in aula. Ordine. Sceriffo. Vostro onore, che giustizia è questa? Non si domanderà che razza di giustizia è questa? Vostro onore, ma che sta... Aspetta, lascia! Mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito. Non sento, che cosa hai detto? Che non bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito. Come? Mi ha sentito, Capone. Vattene, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo. Se ci fosse telecamera non si accorgerebbe adesso che pure i peli inesistenti di Alessia, i miei che esistono, sono dritti, no? E quelli di Maurizio. Che dire, mamma mia, è che lui, dire, non è che dire. Cioè, intorno a lui c'era Sergio Di Stefano che faceva il giovane, ma bello, bella musica di Ennio Morricone, riascoltata la musica di Untouchable, tutto musica, ma l'interpretazione tutto è tutta musica, una partitura, sì, esatto, la voce partitura. Fa parte di una partitura sì. Che è bello, detto, sentivo il crescendo di sei solo, sì. Chiacchiere distintivo e poi questo modo di essere, di avere sporco. Rabbia in questa scena, ma senza gridare troppo, esagerare, cioè tu ci credi perché è qualcosa di misurato, di vero, come nella vita, a meno che non stai, non lo so, sotto effetto di qualcosa di particolare, se ti arrabbi, cioè comunque mai arrivi a gridare come si finge invece a volte magari a teatro, no? Oppure quando non si è proprio molto bravi si esagera, come nelle fiction italiane. Come nelle fiction, capito? E invece così. Lui tutto finto, è finto questo ed è finta anche quella rabbia esagerata, sì, invece sì. Lui che era una scena, ce la ricordiamo insomma, in cui veramente andava fuori di testa, però non gridava mai troppo, no, era portato. C'erano sporco, i nervi, siciliano, napoletano, calabrese, parole dimezzate, sì, era così, no? Ma che meraviglia. E lì ti viene voglia di comunque. Dai, sono di parte, io sono di parte. No, ma che sei di parte? Ci sono di parte pure noi, non è quello. È che quando vedi queste cose, quando vado a vedere, che ne so, un musical all'estero, dico, vabbè, smetto. Cioè, sì. Ti accorgi quanto sei piccolo rispetto a certe realtà. Però come l'importante questa. È nel nostro piccolo essere seri e essere sapere dove andare a parare, insomma, certo. Perché poi noi lo sappiamo come si fa a farlo bene. Sì, sì, e che poi non lo facciamo. Facciamolo. Tu c'hai un Banfi di adesso, vero? Sono Baffi adesso, Pino, grazie di avermi invitato, adesso sai che ho aperto l'orecchietteria, da domani tutto gratis, chi se ne frega, veramente, senza prenotazione, vi mangiate l'orecchietto, io non ci sono perché sono in cucina, farlo fare. Questo è il Baffi e poi è Baffi di adesso. Baffi, venite tutti, sgraziati. È il Baffi di adesso, certo. Che è una persona meravigliosa, io lo chiamo Ziolino da sempre. Perché è affettuoso e buono. Una volta andai a trovare un nipote. Sì, guarda, lo dice. Io andai sul set a trovarlo, stavo facendo il vigile urbano. Lo conoscevo un po', mi sono affacciato sul set che giocava con la Nazionale Attori, quello che dovrebbe nascere fra collaboratori, fra colleghi, e tra lì, Ziolino, come stai? Vieni. Allora lui ha detto, chiamate il regista, fa, date qualche posa a Pino Insegno, per favore. E mi dietro 10 pose al Vigile Urbano. Se tu vai a vedere il Vigile Urbano, faccio una parte, una cosa... che facevo un commentatore sportivo, però feci sette pose e le feci grazie a Ziolino, ma per dire. Oh, bravo ragazzo, è bravo. Sì, però lui l'ha detto in momenti non sospetti, non ero fino a insegnare, ma siamo parlati 25 anni fa. Gli inizi. Per cui fu delizioso. Arrivano tanti bellissimi messaggi, adoro il tuo programma, grande Alessia, cioè, ma c'è sempre un figlio... che dice delle cose ancora leggere, superficiali, siamo la causa di un paese che non impara le lingue. Sì, lo sappiamo che abbiamo un sacco amici. No, ma pochi, perché ormai diventa una stupidaggine. Guarda, scusami se ti interrompo, dillo, io te lo devo dire, perché c'ho un figlio che fa la seconda elementare, no? Quindi, è prevista nella scuola pubblica italiana un'ora di inglese a settimana insegnata dalla stessa maestra che insegna italiano, eccetera. Eccetera, eccetera. Ora, cioè, e fa anche educazione fisica. Fa anche educazione fisica, lo sai anche tu. Questa guerra, perché se noi non sappiamo l'inglese per i doppiatori, ragazzi, non si può sentire. Basta. A parte che spingete un tasto e boom, mettete originale, se proprio volete farlo. E poi non è questo il problema. Cioè, ma basta con questa frase trita ritrita, che noia. Se non vi piace il doppiaggio, non lo ascoltate. Esatto. Mettete originale. Avete rotto le scatole. Le palle. Okay? No, ma si può dire quello, se fosse Cruciani, ma che cazzo, basta, dai. No, perché è vero, perché allora se tu, anzi, è un veicolo, si doppia in tutto il mondo, meno che nei paesi anglosassoni, si doppia in tutto il mondo. E dovete sapere, ve lo urlo per l'ennesima volta, che noi siamo i più bravi al mondo, per cui veicoliamo la possibilità di far fare 1.000 lire a un mondo che è difficile, altrimenti in originale c'è qualche sala, ma sapete che poi sono deserte, anche perché l'inglese, ok, e neanche tutti sanno quell'inglese, perché io vi sfido a vedere Full Monty in inglese e a capire se sapete l'inglese, e tanti altri film, il cinese, il giapponese, il belga, il francese, insomma sono difficili. Uno, questo. Poi quando leggete un libro, se dovete leggere Baudelaire, se sapete il francese, lo leggete in francese, chi vi tocca? Ma se non lo sai, devi leggere una traduzione, un adattamento in italiano. La stessa cosa per García Lorca. E chi te lo proibisce di leggere in spagnolo se lo sai? Se non lo sai, ringraziando il cielo, c'è un traduttore, adattatore. Allora si può parlare di un buon doppiaggio o di un cattivo doppiaggio. Questo è un altro discorso. Una buona traduzione e una cattiva traduzione. Questo siamo d'accordo, una voce giusta o ingiusta. Ma non si può parlare che il libro tradotto non veicola alle persone a imparare quella lingua. È la stessa identica cosa. Umberto Eco in Francia... Pendolo di Foucault lo leggono in francese, non lo leggono in italiano, o Il nome della rosa, tradotto in 78 lingue. E allora fine. Ci sdoganiamo in questo finalmente, basta. Io perdo un po' più di tempo su queste cose che sono una su 100, perché ci tengo a leggere tutti i messaggi che ci sono, quelli di complimenti. Mi fa piacere, se ne parliamo. Ne bypasso una decina perché sono belli. Io ringrazio anche l'amico Dino Capuano, che è venuto anche a fare un provino, ma è un assiduo ascoltatore, dove mi piace in sacco e punch. Poi sai cosa, Pino? Perché non vorrei che noi spesso ci difendiamo da questo tipo di attacco. Non vorrei passassimo per malosi che si offendono. Non è questo, perché se io sto facendo un lavoro e mi viene detto l'hai fatto male, rincito la battuta anche 50 volte, certo, o ne parliamo fino a domani. È che ormai è diventata una specie di partito preso, una specie di scusa, no, dire questa cosa. Perché non è che ti dicono l'hai fatto bene, l'hai fatto male. Si dice il doppiaggio è il male, generalizzando, appunto, come dici tu. Sì, ma però dice uno, lo dicono uno su 1.000, veramente. Sì, ok, dai, è vero. Però da fastidio, a me pure una persona che non ti apprezza... Certo. Quella con cui ci perdo tempo per strada, dico perché, che è successo. Sì, no, interessante 100, capirlo, esatto, certo. Almeno veicolate, insomma, mettete delle indicazioni per poter migliorare tutto questo. Poi andate a vedere un film di Kinky Duke in originale. E poi ne parliamo. Siamo ancora... Senti, Mauro Meconi, visto che sei entrato e sei anche tu un attore, mi devi dire, no, non ti faccio parlare. Anche perché da quest'altra settimana esce una web series che abbiamo fatto insieme con te e anche Alessia Navarro. Mamma Nero. Mamma mia, lo ha fatto il regista, capisci? Dai! Sì, lui è un regista bravissimo, devo dire. Molto più bravo come regista che come attore, secondo me. Bravissimo. Ma comunque... Grazie, sei un amico. No, perché come attore sarei doppiato. Anche te cucini meglio come regista. Però... Io lo dico sempre, non ti faccio doppiata un amico. Chi ce lo sta sopra Mauro Megoni? Chi ci mettiamo? Alessandro Quarta. Ma doppiato Venditti a me in un film, Francesco. Veramente? In un film ho fatto in inglese, sì, mi hanno chiesto, ti vuoi doppiare? Ho detto no, grazie. L'amico Venditti. Ho messo Francesco. Ma se tu pensi che il mio primo film sono doppiato anch'io in Veneto, mezzo destro, mezzo sinistro, con Gigi Andrea, un film, insomma, sono candidato a 12 Oscar, 6 Grammy e porto a casa veramente... Perché mi stai guardando quella faccia? Film indimenticabile, dove giocavo a pallone, di 37 anni fa. Quello è stato un filmone, mica scherzi te. Ecco Andrea. Ci abbiamo dato voglia. Grande Andrea, gli voglio un bene dell'animo. E fui doppiato da Sagliocca in Veneto, perché insomma, 37 anni fa. E il film dopo, un'altra, solo una posa, feci con Montesano, doppiato in milanese. Devo dire che, no? Ma perché te doppiavano? Perché ne so? Te potevi doppiare da solo? Ma non lo sapevo, manco mi hanno chiesto, okay. Andato al cinema, ho detto, ma non è la voce mia, non è che mi hanno chiesto, cioè, non sapevo neanche di fare l'attore ancora 37 anni fa. 38 Chi anni ero fa. 37 anni fa? Lì giocavo a pallone, però fui doppiato. Mi ricordo che hai fatto, qua posa là, mi ricordo, non mi ricordo quando, ma ce l'ho in mente. Aspetta, questo, mo' me sfugge, mo' me. Enrico Montesano. Enrico, è vero, no, c'è la fabbrica a cavallo, ieri sera forse. Sì, sì. Meraviglioso, sempre. Mi prendi in conto tempo di queste voci, disgraziato. No, ma Amendola è meraviglioso. Ma rifai un attimo, ferocemente. Te lo rifaccio, certo. Non c'è nessun problema. Che cosa vuoi che ti lega? È il pezzo di Gigi D'Alessio che fa ridere, dai. Ah, però quello non è Amendola, sì, sì. Però Gigi è un amico, questo diciamo. Certo. Gigi, io voglio bene. Quando sono venuto qui. Ho visto il pezzo, diciamo, Stallone. Finale di Rocky 4, sì. Quando dice tutti il discorso quello finale con la Russia, quando vince contro Ivan Drago. Ma c'è la musica di Rocky. Dai Alessandro, che ci abbiamo ancora un minuto e mezzo. Dai Alessandro, Alessia Navarro, forza Rachele, dai. È bravo ma un po' lentino, eh? Ammazza, lo cambiamo. Come mettere a proprio agio. Sei bravo. Ecco, tienilo su. Quando sono venuto qui ho visto, bravo, che molta gente mi odiava e io non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho capito che neanche voi mi piacevate. Sul ring eravamo in due, disposti a ucciderci l'un l'altro, ma io penso che è meglio così che milioni di persone. Quello che sto cercando di dire è che se io posso cantare e voi potete cantare, tutto il mondo può cantare. Grazie. Adriana, ce l'ho fatta. Bravo. Grazie Alessandro, sono strepitoso anche tu. Che bella cosa. Senti, allora adesso tu puoi rimanere ancora un po'. Certo. Così ci vengono questi giovani attori. Vabbè. Che si avvicenderanno. Ok. Questi microfoni, magari un altro turno, rimani un quarto d'ora. Ma un assolutamente altro blocco. Sì. Va benissimo. Facciamo entrare anche Donatella. Ci fa comodo, ah, questo è quello che doveva leggere. Questa è quella cosa che Alessia Navarro, e questa è la cosa che dovrebbe leggere. Sì. Allora, vabbè, andiamo in pubblicità, dai, e poi riempila di nozze la vasca. Ma che cos'è? Che cos'è, Alessia? La pedicure. Come fare una pedicure a casa. Ce lo leggerei tu. Però pronta, in un esercizio di stile, cioè con varie... Però l'impronta, eh? Sì, giuro che non mi preparo più. No, non te lo do. Andiamo in pubblicità, però con esercizio di stile, varie intonazioni, varie quello voci. Quello che vuoi, però mi dirigi, tu mi dici alla No, fai tu. Salta tu dal dramma al comico, a quello che ti pare. A tra poco ancora con Alessia D'Amendola, grazie Maurizio Giovanni. Grazie. Grazie sei a tutti. Qui e poi entreranno sì, i nostri amici, insomma, cioè, andiamo avanti. Grazie, Donatella Bandimiglia, fra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, al mio fianco insieme ad Alessia Amendola si è aggiunta una, provi ad alzare, ho messo la cuffia adesso, ad alzare il volume della cuffia, di Donatella Pandimiglio, eccola qua, che sta al mio fianco, grandissima. Eccoci. Cantante, salve, docente, con la quale fra un po' di puntate cominceremo un tutorial sul canto, Donatella? Certamente sì. Abbiamo già cominciato quelli con Franco Fussi per quanto riguarda pillole di salute vocale, che andranno da oggi la prima puntata fra poco. E poi con te invece, a parte oggi un'intervista, una passeggiata per farci certo. capire un po' di cose, con te navigheremo nel mondo del tutorial del canto, sarà una bellissima esperienza. Con grande piacere. Per chi almeno può cantare soltanto, ma per parlare, non è che serve per sì, dire. Sì, ma insomma scopriremo che poi ci sono delle tecniche utili ai professionisti, ma che possono essere utili a tutti. Assolutamente sì. E al mio fianco, alla mia destra, le prime due candidate su questo, non so come chiamarlo, questo provino, eccetera, dove migliaia di voi si stanno prenotando. Noi facciamo già una prima scrematura delle prime 300-400 persone che riusciamo a sentire, siete veramente tanti ed è una bellissima occasione, no, Alessia, dare la possibilità a dei giovani di poter entrare in questo mondo. Però ovviamente non riusciamo a sentire tutti. Lì riurlo questa cosa che a nostre spese faremo questa avventura, prenderò un teatro e daremo la possibilità alle persone scelte di poter partecipare a questo. Non siamo X Factor che possiamo mettere in fila 5.000 persone no. e mettergli il numeretto, cioè lì stiamo parlando di una produzione miliardaria anche molto bella. Anche questa è molto bella, ma non abbiamo quella possibilità, a meno che Alessia Mendola non interviene produttivamente con padre. Però Claudio non credo che voglia entrare. Chiediamoglielo. Lo chiedo io che sono pure dalla Lazio. Quante litigate mi sono fatto con mi papà? Sa di no, allora. Gli ho detto, Claudio, viviamo in una società multilaziale, accettami come amico, non c'è stato niente da fare. No. Prima tu, allora, il tuo nome, il tuo cognome? Ciao a tutti, sono Paola Barini. Ok, mi dicono giustamente sì, ma l'inizio era soltanto per conoscere, poi gli dicevo prima di cominciare la registrazione, nome, cognome e il pezzo. Nel frattempo volevo sapere Paola, ho sentito Paola, tu da dove vieni? Vengo da Roma, da anche Roma. Se sono veronese ma abito qui da tantissimi anni. Non si sente che sei veronese, parla un po' veronese? Mi sono un po' desmettega come se parla perché insomma è passato del ci tempo. Sta, ci sta, ma insomma... E che cosa hai portato? Ho portato un pezzo tratto dalle relazioni pericolose. Oh, Liaison Dangereuse. Oui. La parte di chi? Michel Pfeiffer o Glenn Close? Un pezzo Glenn del Close. Libro? Glenn Close. Mi sembra giusto. Pezzo che è il finale? Secondo lei no? No, no, no, no. Un pezzo... Quando una donna mira al cuore dell'altra donna, difficilmente sbaglia. Non lo so, so a memoria quel film. Trascende ogni mio controllo, grande Luca Biagini su Malkovich. Hai scelto una musica? No. Vabbè, a se vuoto. Vuole il nostro. A vuoto la vuoi fare? Allora, ripeti nome e cognome, il titolo, e lì manteniamo la registrazione e poi faremo sentire alla commissione. Vai. Va bene. Paola Barini, Le relazioni pericolose. Quando feci l'ingresso in società avevo 15 anni. E io già sapevo che il ruolo a cui ero condannata, vale a dire stare zitta ed obbedire ciecamente, mi dava l'opportunità ideale di ascoltare e di osservare. Non quello che mi dicevano, che non era di nessun interesse, ma tutto quello che la gente cercava di nascondere. Ed ho esercitato il distacco. Imparai a sembrare allegra mentre sotto la tavola mi piantavo una forchetta nel palmo della mano. E finì per diventare... una virtuosa nell'inganno. Non era il piacere che cercavo, era la conoscenza. E consultavo i più rigidi moralisti per la scienza dell'apparire, i filosofi per sapere cosa pensare e i romanzieri per capire come cavarmela. E alla fine io ho distillato il tutto in un principio meravigliosamente semplice: vincere o morire. Beh. Diciamo che fronte insomma, a bella, bel timbro vocale, bella voce, bella voce, sì. Bella voce significa belle intenzioni, bella questa grattata, questa ingolata. Sì, sì. Vabbè, Amendola, noi vediamo se qualcuno può dar fastidio alla tua età, quelle che doppi la facciamo fuori. Sì, subito. Brava, lascia una foto, che se al doppiaggio ti dicono lasci una foto vuol dire che non è andata benissimo. Diciamo di no. Beh, Paola, sì, sarà giudicata, ma devo dire interessante, veramente interessante. Grazie. Signorina al suo fianco sta a te, da dove vieni, come ti chiami? Mi chiamo Elena e anch'io abito a Roma, anche a Roma. Se non sono romana. Di dove sei? Sono siciliana. Di dove? Sicilia dove? Diciamoli, perché la Sicilia è meravigliosa. Sono nata a Catania. A Catania, che bella Catania. È da 20 anni che vivo a Roma e abito a Roma. E l'arancino è una cosa meravigliosa. E l'arancino è... Non so. Non basta la norma, non basta le sale. No, ma tutto, quello è tutta la Sicilia, però l'arancino, non posso dire il nome di dove si prende, con la, la cipollina, eccetera. Tu vai a Catania, quello devi, lì, quello come lì, in Sicilia devi stare attento, devi fermare la gente, a rifermare. Gli ho chiesto un giorno di darmi una granitina, ho detto, ehi Pino, questa cosa è bellissima, no, questo è napoletano. No, a noi Mi ha fatto assaggiare tutte quante. Mi stavo sentendo male, sì. Granatine. Va bene. La glicemia. Allora, nome e cognome. Sì, nome e cognome. E cosa porti? E allora, questo registriamo. Pronta? Vai. Sì, Elena Ciotta. E la verità è che non gli piace abbastanza. Ed è il brano iniziale. Vai. Una ragazza non dimentica mai il primo ragazzo che le piace, anche se le cose non vanno tanto bene. Ma di solito c'è lì qualcuno che offre perle di saggezza. Ed è fatta. È così che iniziano i nostri problemi. Sapete che vuol dire questo? Che siamo tutte incoraggiate, anzi, programmate a pensare che se un uomo si comporta come un perfetto stronzo, vuol dire che gli piacciamo. Perché ci raccontiamo questa stronzata? Possibile che sia perché abbiamo troppa paura ed è troppo difficile dire l'unica verità che è davanti agli occhi di tutti e che non vogliamo vedere. La verità è che non gli piace abbastanza. Ok, benissimo. Non siete tutti, ma abbiamo fatto una buona scrematura. Cioè, questo continua ancora. Perché non cambi trasmissione? Ti voglio bene, però se mi cominci a fare l'elenco di tutti i paesi dove non si doppia, a me, cioè, io lo dico perché leggo tutto. A parte che bella e piacevole voce, ottima interpretazione, complimenti. Il doppiaggio è il bene, mandare tutti. Vabbè, no, va bene tutto, però dico va bene. In Scandinavia non si doppia, vai in Scandinavia a vedere il film. Perché c'è un altro, la figlia, la sua amica olandese, a 10 anni c'è il figlio che capisce tutte le pallucchie, l'inglese, il tedesco e il francese. Ma l'olandese lo parla, sto ragazzino, per esempio, per parlare a madre. Detto anche tra noi. Perché pure i programmi dei bambini sono doppiati. Ma che vuoi? Cioè, vai in Olanda, vai in Norvegia, non so che dire. Ma ripeto, non dipende ma da soprattutto, noi. Ma soprattutto, ti piace questa bambini? Trasmissione? Non parliamo di doppiaggio, qui parliamo di voce, parliamo di canzoni, di musica, di interpretazioni, di tutorial, di pillole vocali per la salute vocale, parliamo di antropologia vocale, parliamo di uno studio di comunicazione del linguaggio, parliamo di tutto, ok? Per cui questa è una trasmissione che non si occupa di doppiaggio, la scusa è un angolo, è il doppiaggio, dove abbiamo delle ottime attrici, eccetera eccetera, e poi però ci sono cantanti, attori, doppiatori, vocologi, psicologi, ipnotisti, abbiamo tutto, mancano veramente i nutri e nani e elfi per chiudere la trasmissione, per cui se te va la senti, se no segui il calcio, è cominciato ancora, no, fra 6 minuti, va bene, e... Grazie voi due, e intanto voglio far leggere ad Alessia questa cosa prima di chiudere e salutarla. Com'è Alessia Navarro invece? Alessia Navarro, la capoprogetto, questa è come fare la pedicure fai da te, però è un esercizio di stile, Alessia. Ti aspetta, do anche la musica al mio amico. Che viene ripresa a Facebook, ricordatevi che non sta, vi prenotate, eccetera. Mettete pure mi piace sulla pagina, siete 112.000. Abbiamo tanti like, però insomma mettete pure un clicchetto lì. Vai. Che tu abbia la reale necessità di ammorbidire i tuoi piedi callosi o voglia semplicemente viziarti per un giorno, una pedicure è la soluzione ideale. Con un po' di tempo a disposizione, un minimo sforzo, i tuoi piedi diventeranno setosi e perfettamente levicati, suscitando l'invidia delle tue amiche. Bravissima. Ecco, capito? Questo non è doppiaggio, no? Questo è far vedere e giocare sulla voce. Va bene. Allora io saluto Alessia, tu devi tornare. Ciao, dai tuoi figli, da tuo marito, da tutti e 12 figli. Grazie. Amo la tua famiglia, gli vogliamo bene tutti. Io ti voglio bene a te. Declinata in tutte le direzioni la tua famiglia. Grazie, grazie Alessia, grazie a te, Pino. E a Donatella, tutti, resti qui e sì. Facciamo entrare altri due. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Sono stanco degli esperti, degli opinionisti, delle menti illuminate, dei polemisti, dei cattivelli e dei buonisti. Non mi interessano i liberati, gli emancipati, i saggi e i timorati. Mi annoiano i cinici, i brutali, gli spregiudicati e gli immorali. Sbadiglio quando ascolto i mangiapreti, come pure i clericali. Non mi convince chi difende i valori come chi inneggia i pastori. Non mi divertono le vergini vestali, ma nemmeno i libertini plateali. Che faccio nel mio tempo libero? Parlo alla radio, ascolto chi mi ascolta ogni giorno per il solo piacere del dubbio. Melog, il piacere del dubbio, dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12 su Radio 24. Voice Voice Anatomy. Eccoci signori miei, bentornati. Sono le 15 in punto in questo momento. Tanti sms che mi piace il fatto che collaboriate anche voi nella possibile scelta delle nuove voci, che collaboriate nella pienezza della radio, nel bello chiudi gli occhi e ti lasci trasportare da queste splendide voci, dice Mary da Pordenone, viva la voce, eccetera, la voce è la priorità, cioè, quello che dicevo prima, insomma, non si parla di doppiaggio e basta, doppiaggio è soltanto una delle declinazioni che ha la voce, che permette di veicolare dei film che altrimenti magari non avrebbero quel successo. Non è che proibisce a nessuno di imparare quella lingua, a prescindere dai paesi scandinavi e da quelli anglosassoni che devono e ci dicono grazie loro. Voi pensate che noi siamo il punto di riferimento europeo e mondiale per la scelta delle voci, perché poi da qui si declina in tutto il mondo la scelta vocale. Woody Allen stesso ci mandò un video di ringraziamento a Oreste Lionello, che lo aveva reso un attore migliore. Ma a volte restano delusi gli ascoltatori, sì, quando sì, si sentono le voci originali. E poi senti Peppino Rinaldi. Molto più affascinanti quelle, volte sì, quelle nostre. Ovviamente, no? È una traduzione. Donatella Pandimiglio, la voce che state sentendo. Salve. Grandissima cantante e dietro anche, era anche una bravissima insegnante. Tu hai un'accademia poi di canto. Io sto insegnando già da 2 anni da un'accademia diretta da un nostro allievo Enrico Sortino, che si chiama l'accademia Internazionale del Musical, l'Accademia sì, Internazionale del Musical. Sì, poi tu ti occupi di quello, poi l'ha insegnato sì. Anche la nostra accademia, la Corrado Pani, dove c'era il grande Corrado Pani. Esattamente, sei una grandissima interprete e grandissima. Adesso in questo momento mi dai anche una mano per veicolare questi ragazzi che emozionati. Con gran piacere. Si stanno alternando. Si presentano anche persone che non sono state scelte certe volte. Non facciamo questo, noi già facciamo una schermatura. Se avete da noi l'indirizzo, l'orario, la convocazione, venite. Poi ovviamente oggi abbiamo fatto un'eccezione, una piccola eccezione, ma ci sono delle regole da rispettare, mi raccomando. E poi ve lo ripeto, ve lo urlo fino alla noia, non vi preoccupate, nessuno resterà indietro, come ho urlato nel film Trolls, che facevo il capo dei Trolls. Nessuno resterà indietro, ci sono io che faccio da testimone al vostro, sono ancora un ragazzo che ancora bussa le porte per chiedere se può essere ascoltato, pensate un po'. E allora, sentiamo una voce maschile prima di queste bellissime voci femminili. Fanno i complimenti ovviamente a Paola, che è una voce piacevole, Elena un po' meno, l'interpretazione era più povera, mentre la sua interpretazione, insomma, sono anche dei commenti dei nostri amici che sono molto attenti a Radio 24, che correggono anche me sui congiuntivi, sul modo di dire le parole. Beh, no. Non si può mai stare tranquilli. No, io li accetto, ecco. Le critiche quando sono come di un signore anziano e dice ho più di 80 anni, Pino, ma mi permetto di dirle, la sua trasmissione è molto bella, però lei, ecco, voglio dirle, faccia parlare un po' di più i suoi ospiti, stia un po' più attento, e io le accetto, è giusto. E a proposito di questo, prego. Allora, buongiorno Pino, buongiorno a tutti, io sono Ivan Anoè, sono di Venezia. Anoè. Anoè. Siciliano. Anoè sembra romano però. Anoè! Senti un po', ma sto diluvio! No, in realtà è siciliano, però poi tutti gli Anoè sono su in Veneto, perché io sono di Venezia. E quanti ce ne stanno di Anoè? Tanti? In Veneto abbastanza, saremmo un centinaio, non di più. E adesso sono a Roma da 3 anni. Come si chiama Noè? Sta a Venezia al massimo, insomma. Esatto, tutta quell'acqua. Ha un'arca assicurata. Esatto. Infatti le battute ovviamente. Sono facili, come sul mio cognome, insomma. Sì. E niente, sono quanti a Roma, ho 33 anni, sono qui a Roma. Ma è importante, tu lo sai. Sì, lo so. Qualcuno prima di te, insomma. Sì. Sono qui a Roma da 3 anni. E sto iniziando col doppiaggio. Sei un attore di base, bisogna sempre dirlo ai ragazzi, bisogna essere degli attori di base. Ho iniziato proprio alle scuole medie, diciamo, con i primi corsi, e poi mi sono specializzato lì a Venezia e ho studiato un po' a Milano anche. Voce importante, un bel basso. Molto, no? Molto bella. Grazie. Canti anche? Sì, canticchio. Hai un bel timbro. Grazie. E niente, qua a Roma ho iniziato a fare qualche turno con Rossi, con Vairano, con Rossi, sai, sono tanti, per cui Alessandro. Ah, è magnifico, meraviglioso. E con la Modugno, con Ludovica Modugno. Vabbè, e niente, sto iniziando. Due belle voci, Allora, che cos'è? Nome e cognome, cosa hai portato? E ti lasciamo libero. Hai scelto anche una musica, qualcosa? Sì, la musica c'è. Hai scelto la musica, vai. Ivan Anoè, Tak Everlasting. Guardati intorno. La natura brulica di vita. Ci sono i fiori e gli alberi e le rane. Tutto fa parte della ruota. Continua a cambiare, continua a crescere. Come te, Winnie, la tua natura non è mai la stessa. Un tempo sei stata bambina. Adesso stai per diventare una donna. Un giorno sarai adulta, farei qualcosa di importante, avrai dei figli forse, e poi un giorno, inevitabilmente, ti spegnerai come la fiamma di una candela, farai spazio a una nuova vita. È così che funziona la natura. Nessuno vuole morire, ma la morte fa parte della ruota. È come nascere. Non puoi vivere senza morire. Ho lasciato anche la codina della musica che salisse. Sì. Grazie. Bene, bene. Ricordatevi sempre di non sfiatare sulle finali, ecco, quella è una cosa. Vabbè, un po' l'emozione. Importante. No, ci sta. No, ma è fatta benissimo. No, questo, sai, quando uno fa una critica, non è una critica perché significa è andato così bene tutto il resto che ma soltanto quello di poi uno può fare sul fiato, andare sul fiato, non è che uno deve timbrare fino a fine, ma che non ci siano quelle finali, dobbiamo andare. Mm-hmm. La cosa migliore. Si perde tutto. Che invece perdi quella forza. Lasciamolo fare a chi non lo sa fare. Quelli che non sanno tenere l'intenzione fino alla fine. Quelli che dicono dobbiamo andare. Invece uno può dire dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Non lo so, adesso non voglio far bravo io, ti sto solamente facendo finta che siamo io e te. Siamo e poi ci agganciamo alla tecnica, perché è un fatto di sostenere il suono. Esatto, ma tu ce lo insegnerai. Lo farò. Bravo Ivan, va bene. Allora, signorina. Buongiorno, io sono Selena Bellussi, ho 24 anni e vengo da Treviso, però abito a Roma da 3 tutto anni. Tutto nord-est è meraviglioso. Sì. Treviso meraviglioso, anche Treviso, non ricordo con la prima ditta certe tournée, che prima di cominciare si veniva sempre qualcuno a offrire da bere. Chi è chissà? Sì. Gli altri che si beveva. Sì, sì, ci viene molto bene, diciamo. Sì. Allora, tu vivi a Roma. Vivo a Roma, quanti sì. Sei giovane, 24 anni? 24 anni, ho studiato recitazione qui a Roma in un'accademia per 3 anni appunto, mi sono appena diplomata. Sei sposata? No, fidanzata. Sì, con scusa, non c'è. Con me. Con Noè. Sì. Ah, fantastico. Sì, con Noè stai. Sì. Ma che fai, delle cose a coppia? Ma com'è? Vabbè. Sei fidanzato con Noè. Vabbè. Sì. E come va? Bene, bene. Treviso e anni. Venezia. Gemellaggio. Voi accettate qualcuno di Pordenone oppure chiudete le porte a, a qualcuno? Del... Dai, già abbiamo fatto un'eccezione da Treviso Venezia. Vabbè, tu lo stai aiutando, dice non affondare, amico mio, l'hai portato via. Va bene, allora ripeti il tuo nome e il tuo cognome e cosa hai portato. Vai. Selena Bellussi, Il buio nell'anima. New York. La città più sicura del mondo. Ma è orribile. Avere paura di un luogo amato e vedere un angolo che conoscevi così bene e spaventarti con la sua ombra. Non riuscire a salire i gradini tanto noti. Non avevo mai capito come si potesse vivere nella paura. Paura di rincasare nel buio sola. Paura di ritrovare nella posta quella polvere bianca. Terrore della notte. Credevo che la paura appartenesse ad altre persone, persone più deboli. Non ne avevo mai avuta. E ora ce l'ho dentro. E quando ti tocca, capisci che è sempre stata lì lei, in agguato, ben nascosta sotto tutto quello che tu amavi. E ti si gela il sangue. E il tuo cuore duole. E tu guardi la persona che eri camminare per quella strada. E ti domandi se mai... se tornerai mai ad essere lei. Anche per te, come abbiamo fatto per il tuo fidanzato, abbiamo lasciato. Grazie. La coda musicale. La coda musicale che cresce. Sentite la musica come. Beh, poi Il buio nell'anima è il film è bellissimo sulla violenza. Sì. Con Jodie Foster. Jodie Foster, adoro, sì, Laura Boccanera. La, non lo diciamo, ma si incazza quello che è la doppiata. No, Jodie Foster, senti l'originale. Esatto. Sì, ma Laura Boccanera è brava. Beh. Va bene, non sta a me giudicare, però insomma è sempre interessante. La scrematura, sì, come vedete, avviene su altissimi livelli, su buoni livelli. Poi sono tante persone, non possiamo essere giudici di nessuno. A me dissero all'inizio, tu non farai mai il doppiatore, quando facevo i primi turni. Per cui devo dire che vale tutto il contrario di tutto. Ma in un concorso, in qualcosa, magari se venisse adesso Lucio Battisti e facesse X-Factor, lo cantano via perché è calante. Lo cantano via perché dice, beh, un po' calante. Sì. Leggera, la voce un po' troppo leggera. Infatti no, poi dopo forse avremo una testimonianza di una mia allieva che è oltreoceano. Dopo la sentiamo. È proprio su questo. Proprio su questo. Esatto. Bene, Bellussi, fai spazio alla nostra terza candidata. che è qui, più piccola, no, piccola d'età, no, non lo so. Forse. Sì, ho 20 anni. Ho 20 anni. Beh, anche noi, pure la Pandimiglio. Li ho avuti senz'altro, guarda, sicuro li ho avuti. Sono scordata quando ci ha avuti 20 anni la Pandimiglio, pensa un po'. Allora, mi chiamo Arianna Maducci, ho 20 anni, come ho detto adesso. Di dove sei? Sono di Cesena, di Emilia Romagna. Beh, sei del sud rispetto a loro, ormai sei una donna del sud rispetto a Treviso e a Venezia. Sì, ma guardato con una faccia di... Del sud. Arrivano tantissime... voce importante, complimenti. Da Pordenone è arrivato questo. Attenzione, per cui vi ha accettato nonostante venga da Pordenone. Voce stupenda, sa giocare con la voce. Forza Ivan, uno dice. Ciao Pino, perché non fai anche Voice Anatomy in televisione? Guardate, con Mauro Meconi e Alessia Navarro abbiamo fatto un numero zero televisivo di Voice Anatomy con i nostri amici e colleghi, dove ci sono tante cose interessanti e la stiamo proponendo in questo momento. Sta piacendo molto perché è interessante, perché non è sedute sulla voce, ma ci sono ovviamente i film, i doppiatori, gli attori, Luca Ward, eccetera, tanta gente, cantanti, anche lì è molto interessante, si può fare anche lì molte cose. Ce l'abbiamo girata e adesso vediamo cosa succederà. Anch'io devo bussare alle porte e mi devo consumare le unghie. Allora, ripeti il tuo nome e cognome e cosa porti? Mi chiamo Arianna Maducci, porto Vanellope da Ralph Spaccatutto. Che porti? Vanellope. Ah, la piccolina. Sì, sì, di Ralph Spaccatutto, il film a cartoni animati, dei videogiochi che combattono, eccetera, eccetera. Certo. Va bene, vai. Ti diverti a fare i capricci, poppante lagnoso? Oh, senti, tu vuoi la medaglia, giusto? Ed io voglio correre. Allora, ascolta cosa ho pensato. Tu mi aiuti a trovare un kart. Un vero kart. Io vincerò la corsa e ti ridarò la medaglia. E dai, voglio solo che rompi una cosa per me. Allora, che ne dici, amico? Oh, andiamo, socio. Ti percepisco come un fratello. Oh, su, bello. Ralph, amichetto mio. Amico numero uno. Ehi, mi si sta stancando il braccio. Fare fatto o no? Ecco, è maggiorenne, lo diciamo. È maggiorenne, sì. È maggiorenne, ok? Vedi con la voce come si può giocare, esatto. Veramente, sempre. Lei andava sulle corde che ha più fedeli a se stesse, sono quelle leggere. Poi anche se i cartoni di adesso... Beh, in realtà sono... faccio anche voci un po' più normali. Sì, sì, sì, di la meccia, non è che sono solo l'era glaciale, cioè faccio anche Diego. È normale, certo, uno con la voce gioca, qui ti sei giocata la possibilità su una tipologia... vocale, insomma, no, ma è importante, certo. Questo ti fa capire quanto si può giocare, certo, con la versatilità. Se il film dovesse essere un cartone, anche se vi ricordo che i cartoni ormai sono doppiati con voci vere, nel senso, insomma, sì. La Pixar, eccetera, la Fox, la Warner, cioè, sono cartoni animati di grande realtà, di grande impatto, la caratterizzazione c'è sempre meno, in un certo modo. C'è una caratterizzazione vocale, ma mai così esagerata. Però no, la tua era molto naturale, da bambina puoi avere un bel range vocale. Interpretazione. Certo, ma ci sta, ma ragazzi, insomma, ci sta, non è mica uno doppia solo Biancaneve. Va bene, va bene. Bene, grazie. Allora, possiamo far ascoltare, vabbè, dopo abbiamo un altro blocco per ascoltare, poi c'è Franco Fussi e chiudiamo con te, cara Donatella Pandimiglio, con anche questo appuntamento oltreoceano e poi per presentare che fra qualche settimana comincerà il tuo tutorial. Benissimo. Ma di me non mi fate leggere niente a me. Io ogni volta... E poi dicono che sono io, devi parlare di meno, capito Donatello? Di come canto bene io. Ma sei fantastico, nessuno lo sa, però presto faremo un musical insieme. Hai sentito il silenzio che ha provocato questa cosa? Lo stesso silenzio che provoca quando io dico, beh, devo dire che il mio successo, devo ringraziare il mio corpo, insomma il mio fisico che mi ha dato... la possibilità di essere quello che sono. Ecco, il sorriso che leggo sulle labbra che presento ti fa capire quanta verità ci sia in tutto questo. Va bene, allora io ringrazio voi, diamo lo spazio agli ultimi di oggi, ce ne abbiamo te, che mi hai dato? Il grande Gatsby. Ah, perché oggi è la festa di Fitzgerald. Ma non lo voglio fare. Vabbè, dopo vediamo se c'è tempo. Nel frattempo restate con noi, c'è ancora Donatella. Dopo questo prossimo blocco degli ultimi provini di oggi ci sarà la prima pillola vocale di Franco Fussi con ospiti dei cantanti straordinari e dopo chiuderemo questa avventura pomeridiana con Donatella Pandimiglio. Tra poco Voice Anatomy. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, signori miei. Sono le 15:16 primi, una manciata di secondi. Voice Anatomy, ci sono gli altri tre ultimi concorrenti, non mi piace, professionisti, giovani che vogliono affacciarsi nel mondo del teatro, del cinema, della fiction, del doppiaggio in questo caso, ma vi ripeto, non si può essere chirurghi senza aver fatto medicina prima, no Donatella? Tu non dici mai... No, io sono abbastanza... Cantiamo folk, fai cantante, poi cantante musica, lirica, quello musica, che vuoi, tutto, musica, bisogna conoscere, ma infatti bisogna conoscerla tutta per poi riuscire a scegliere secondo le proprie corde, man mano ci si costruisce il proprio modo di essere e quindi diventare quello che poi possiamo essere su un palco piuttosto che... davanti a una macchina da presa. Bene, tanti altri complimenti e ricordi di un film Sotto assedio, il tuo timbro vocale stile di recitazione, brava Arianna, cioè, buon pomeriggio. Vorrei una vostra opinione su quelle persone che recitano uno spot magari a favore di una Onlus a tutela delle bambine costrette a sposare uomini molto più adulti, stesse doppiando un film a luci rosse. A me personalmente dà fastidio tutto sto fiato, non lo so, non l'ho visto, non lo so, non so, no. Se è voluto, insomma, devo vederlo lo spot, però credo che sia ironico se hanno utilizzato una voce con i fiati, o bisogna vedere il testo, non lo conosco, no, ammetto, no. La mia, adesso mi informerò e vedrò perché è stato fatto, dove è stato fatto soprattutto. Allora cominciamo con un'altra donnina, sei giovane anche tu. Sì, 20 anni. Ah, mamma mia, che strazio. C'è gente che c'ha ancora 20 anni, Donatella. Annaggia. Porca miseria. C'è gente così. Come io sono Luisa d'Aprile e vengo dalla Puglia. Ah, pensavo che venivi da Aprilia. No, Da Aprilia, dico, da beh, vicino. Aprilia. No, da Aprile e dalla Puglia. Da Aprile. Con l'apostrofo. Con l'apostrofo. Esatto, sì. E viene da Puglia dove? Gioia del Colle. Gioia del Colle. Ma è bello, sì. Bisogna dirlo, insomma. Sì, no, sono famosi, sono posti che fanno parte della nostra meravigliosa penisola. Sì, ultimamente sono spesso a Roma per dei turni perché sto cominciando a lavorare in questo bellissimo mondo, appunto, quello del fammi doppiaggio. Fammi sapere che tu c'è sti turni, questa settimana ce n'ho solo uno. Va bene. Vedi? No, a saperlo, cioè tutti sti turni. Vabbè. Che cosa, allora, ripeti il tuo nome e cognome, sì. Cosa hai portato e lì partiamo, c'è la musica anche tu, l'hai scelta? No. No. A cappella. A cappella, sì. A cappella si può dire, non mica la parolaccia, ridere la tua amica lì vicino. No, non era per malizia. No, lo so, no, ma ci mancherebbe. A cappella. Normalmente ha fatto una virgola. Attenzione. Attenzione, ho fatto una virgola dopo K. Va bene. Che Cruciani mi perdoni. Va bene. Allora, vai. Luisa d'Aprile, Biancaneve il cacciatore. Il ferro fonderà, ma poi si solidificherà in se stesso. Per tutti questi anni ho conosciuto solo il buio. Non avevo mai visto luce più brillante di quando i miei occhi si sono riaperti. E io so che quella luce brucia in tutti voi! Quelle braci debbono tramutarsi in fiamme! E il ferro in una spada! Io diventerò la vostra arma! Forgiata dal fuoco feroce che sento nei vostri cuori! Poiché io ho visto ciò che lei vede, io so ciò che lei sa. Io posso ucciderla. Figli di Gondor, di Rohan, fratelli miei. Bene, ha fatto, sembrava, ma non è questo il giorno. Non è questo. Bene, grazie. Bene, piccolina arrabbiata così, hai visto? Poi è bella, una buona dizione, perché normalmente, sai, il sud, eccetera. Ciò era un il po'. Il centro e il sud. Sì, era c'erano chiuso. Un paio di... Ciò è ciò. Aperta. Vabbè, è per cui questo un segno blu, non è un segno rosso. No, non è un segno rosso. Un segno blu, no, è veniale, brava. Com'è in pugliese questo monologo all'inizio? Ah, io non sono capace di... Non parli pugliese? No, per niente. Non parli, no, papà no, e mamma parlano... Ho tantissimo tempo a togliere la cadenza, il dialetto non... No, però bisogna mantenerlo, io dico sempre... No, lo so, bisogna però... parlare italiano, a scuola parlare italiano, ma il dialetto sempre... personale manteniamolo saldo vicino. Sì, capita qualche volta a casa, però no, non... Non c'è la cadenza, nemmeno quella. Quella c'è la... La gioia del Colle, le orecchiette con le cime di rape. Sì, vabbè, non dice manco bene. No, ma no, non sembra pugliese. No, sembra le cime di rape. Anche... Sembra come uno romano che dice all'immortacci tu e non lo sa dire. Non lo sa dire. No, non riesco. Vabbè, non fa niente. Vabbè. Bene, noi cerchiamo ci questo. Ci abbiamo provato. No, ma va bene così. Provato. Lui ha una stazza incredibile. Sì, alterniamoci con un uomo e poi l'altra donnina. Tu, non, ti chiedo come ti chiami... Quanto pesi e quanto sei alto, perché sei una cosa Allora, sono Giuseppe e il vengo... cognome ce l'hai, sì. Cattani. Sei ricercato? No, allora no, no, assolutamente. Beh, Cattani, commissario Cattani. Esatto, della Piovra. E vengo da Roma, ho 22 anni e ho fatto teatro un anno di accademia e va adesso... Va bene. E che cosa... Sei altissimo, grande. Giochi a rugby, sei un pilone. Sì, ho giocato anche a rugby. Da solo? Sì. No. Beh, sì, è una squadra, da solo. Te la sei mangiata il resto della squadra. Esatto. Ma esatto. Così non è cicciolo, è grosso, è enorme. Cioè, ma lo devo prendere? Cioè, come... Io mi rivolgo a Meconi e a Navarro di là... Oh, è preso lui, no? Direttamente, anche se abbaia durante... Ma sono buono, giuro. Beh, fatta essere pure cattivo, fio mio. Cioè, sei una cosa grandissima. Questo mi impone la sua presenza, signori. Io accetto, lo dico. Se vedete Giuseppe in finale è perché ci ho avuto paura. C'è un perché. Allora, nome e cognome, cosa hai portato? C'hai musica, qualcosa? No. Anche tu libera, è poi il modo migliore per giudicare. Vai. Giuseppe Cattani, discorso di Marcantonio. Niente proprio di meno che. Addirittura. Vai. Amici, romani, concittadini, io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso e Bruto è uomo d'onore. Ora io, con il consenso di Bruto e degli altri, poiché Bruto e anche gli altri, tutti uomini d'onore, io vengo a parlarvi di Cesare morto. Sì, è vero, sul pianto dei miseri Cesare lacrimava e un ambizioso dovrebbe avere scorza più dura di questa, e tuttavia è Bruto a sostenere che egli fosse ambizioso, e Bruto è uomo d'onore. Sì, è anche vero che Cesare tre volte offrirono la corona di re e Cesare per tre volte la rifiutò. Era ambizione la sua? Ma tuttavia è Bruto a dire che egli fosse ambizioso, e Bruto, voi lo sapete, è uomo d'onore. Te sei imbarcato in una delle cose più complicate del mondo. Hai mandato un provino su una cosa cinematografica. Questo è difficile. Cioè, nel senso, qui rischi la caduta. Sì. Nel senso, non vogliamo fare come X-Factor o come cosa, eccetera. Ma su una cosa del genere c'è il teatro. E il teatro non è solo auricità e retorica, è verità. Questo è uno dei monologhi forse più belli. Infatti poi lui ha tecnicamente un po' forzato questa vocalità che lo rende finto, pensando di renderlo più credibile, più forte. E invece paradossalmente, paradossalmente il contrario. Più sei sicuro nell'emissione, la sicurezza, un grande personaggio come questo, da questo personaggio ci si aspetta una vocalità sicura. Non una vocalità ingolata, necessariamente scurita, no, perché rischia di portare, come giustamente diceva Pino, da un'altra parte. Sì, è difficile questo. Amici concittadini romani, prestatemi orecchio. Non sono venuto qui a seppellire Cesare né a farne l'elogio. Chiedo venia. No, lì poi fu un grande Marlon Brando, ma doppiato un grande Gino Cervi. Quando finiamo questo blocco? 29. Ok, Giuseppe deve migliorare. Legge, non recita, mi dice qualcuno. Va bene, Luisa, brava, voce teatrale. Perché non chiudete più alle 17? Anticipate, ma viene fuori mezz'ora di trasmissione in meno, lo so. È il nuovo palinsesto di Radio 24, perché poi ci sono anche le partite che incombono in qualche modo, e allora cerchiamo di fare una trasmissione ancora più seguita di quella che è stata fino alla scorsa settimana. Carobino, a proposito dei ridoppiaggi, come si poteva perdere la colonna dialogo italiani se questa si trova nella pellicola di un film insieme alla colonna visiva? Mi puoi fare un'altra domanda? La domanda di riserva? Una di storia qualsiasi. È difficile, nel senso che certe volte non ci sono i diritti per quella colonna. Questa è la verità. C'è stato un momento in Cena volta in America che è stato ridoppiato anche da grandi professionisti perché i diritti non combaciavano con i diritti del film. Per cui per far uscire il DVD si è pensato di ridoppiare e non di prendere quei diritti. Poi si sono messi d'accordo e cioè, sono anche diatribe legali in tutto questo. Certe volte invece il ridoppiaggio viene richiesto addirittura da Coppola, quando abbiamo rifatto Il Padrino, che ovviamente è tanto di cappello al doppiaggio originale. Quello ridoppiato ovviamente perde rispetto agli Amendola, ai Barbetti, eccetera, eccetera. Però è stata una richiesta proprio di Francis Ford Coppola per rifare 5.1, però mantenendo il doppiaggio mono originale. E poi una scelta del nostro direttore Rodolfo Bianchi di lasciare però in presa diretta gli italoamericani, per cui sì. Lo vedete in un'altra formula, però sempre tanto di cappello ai vecchi doppiaggi, insomma, non perché siano migliori, ma sono quelli originali. Va bene, abbiamo sentito, no, manca la nostra signorina, abbiamo ancora 3 minuti. Allora, come buon ti chiami? Marta. Quello è il microfono, non Ciao. È un rasoio? Hai i peli sulla lingua? No, no. Allora. Marta Filippi, ho 23 anni. Lo so, me l'ho detto in un modo come di, che dobbiamo fare? Di dove è sei? Che, ma, è così. Di dove sei, Marta? Di Roma, dalla ridente Garbatella. La Garbanza. Allora. La Garbanza. Vabbè, bene, io sono mia zia, che sì. Sono, beh, la prima erminia dei film di Sordi è la sorella Garbatella, mia zia. Oh, sì. Sì. Ma è un polo turistico. La sorella di Maurizio Arena, io saluto, ci ascolta sempre Rossana Di Lorenzo, zietta ottantenne. La prima, sì, lei insieme a Mario Brega disse pure sto Natale suo Semoradide ai Val e non solo. Cosa hai, ripeti il tuo nome e cognome e cosa hai portato? Vai. Marta Filippi, Mona Lisa Smile. Ok, film di Neil Jordan se non sbaglio. Con Julia Roberts. Julia Roberts, sì. Brava. E Bo Hopkins, che non c'è più. Cara Betty, sono venuta al Wesley perché volevo fare la differenza. Ma cambiare per gli altri è mentire a se stessi. La mia professoressa, Catherine Watson, vive secondo le proprie convinzioni e non accetta compromessi, neanche per il college. Dedico questo mio ultimo articolo a una donna straordinaria, che ci è stata di esempio e ha convinto tutte noi a vedere il mondo attraverso nuovi occhi. Quando leggerete questo mio scritto, lei si sarà già imbarcata per l'Europa, dove so che troverà nuove barriere da abbattere e nuove idee con cui rimpiazzarle. Ho sentito dire che ha gettato la spugna per essersene andata. Una girovaga senza meta. Ma non tutti quelli che vagano sono senza meta. Soprattutto non coloro che cercano la verità. Oltre la tradizione, oltre la definizione, oltre l'apparenza, non la dimenticherò mai. Bene, bene. Non c'era la musica, non l'ho lasciata continuare sotto. Però bene, siete molto preparati, devo dire che di base, insomma... Lei si sentiva un po' più di emozione, infatti secondo me sei entrata e uscita dal lato emozionale, vero? Se poi riesci a mettere l'emozione, l'abbiamo sempre tutti, se la mettiamo dentro quello che stiamo facendo, allora esce utilizzatela, fuori. Utilizzatela. Ma avete dato, sta cosa è il grande Gatsby, perché oggi è la festa dei Fitzgerald e me lo volete sputtanare. Io la leggo, ma non so di che cosa parli, è il finale del libro, io non l'ho letto, ho visto il film... Nick Carraway, grazie Rachele. Mettetemi una cosa, una musica pure a me. Non so, boh, vabbè. E mentre ero seduto là a meditare sul vecchio sconosciuto mondo, pensai alla meraviglia di Gatsby, quando per la prima volta aveva scorto la luce verde all'estremità del pontile di Daisy. Aveva percorso una lunga strada fino a quel prato blu, e il suo sogno gli doveva essere sembrato così vicino, che difficilmente avrebbe potuto fallire nell'afferrarlo. Non sapeva che era già alle sue spalle, da qualche parte nelle immense tenebre oltre la città dove i campi oscuri della Repubblica si estendono nella notte. Gatsby credeva nella luce verde, il futuro orgastico che anno dopo anno si ritira davanti a noi. Ci delude poi, ma non importa. Domani correremo più veloci, stenderemo le braccia ancora di più. È un bel mattino. Così continuiamo a remare. Barche controcorrente, costantemente respinti nel passato. Grazie, le faremo sapere. A tra poco, voi sanatomi con il grande Franco Fussi e subito dopo con Donatella Fandimiglio. A tra poco, amici miei. Grazie, scusate. Voi sanatomi. Bentornati signori miei, qui a Voice Anatomy. Come promesso c'è il nostro amico, grandissimo professionista, medico chirurgo, specialista in foniatria e otorinolaringoiatria, Franco Fussi, già ospite la settimana scorsa. Cominceremo con lui questa settimana una serie di tutorial. Voglio ricordare, insomma, Franco, di quante cose tu ti occupi, a parte dei colleghi, colleghi cantanti. Io sì, sono un attore, ogni tanto prestato alla canzone. Amici. Sono amici. Degli amici con cui hai dei rapporti confidenziali, sicuramente, perché proprio la salute delle corde vocali sono fondamentali. E noi vogliamo con lui intraprendere questo percorso in pillole di salute vocale con Franco. Saranno vari appuntamenti e serviranno anche a voi laici che non cantate, che non recitate, ma vivete e parlate, perché sapete che la voce è l'elemento di comunicazione più importante al mondo. Io ricordo che Franco, oltre ad essere questo medico chirurgo specialista in foniatria otorinolaringoiatria, è anche responsabile del centro audologico foniatico dell'agenzia ASL di Ravenna, è consulente foniata del Teatro Comunale di Bologna, dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, dell'Accademia Rossiniana di Pesaro e della Scuola e poi del Maggio Fiorentino. Insomma Franco, sulla biografia finisce la prima giornata di tutorial. Fra un po' farò pure il regista, perché nell'ambito del convegno di ottobre della Voce Artistica, la 11ª edizione, nella prima serata faremo uno spettacolo con due intermezzi di Pergolesi e di Aldo Terabella, La Serva Padrona e Il Servo Padrona, e io curerò la regia anche dello spettacolo. Ah, per cui comincia a entrare piano piano. Diventiamo artisti. Attenzione. Ricordiamolo questa bellissima manifestazione alla quale io prenderò parte, almeno una piccola parte. Certamente sì, perché parleremo di doppiaggio e di interpretazione anche nel doppiaggio, ed si svolgerà a Ravenna al Teatro Alighieri dal 26 al 29 di ottobre dell'11ª edizione. È una kermesse, diciamo, in cui la mia volontà era quella di mettere insieme, di far dialogare assieme professionisti che ruotano intorno ai problemi della voce professionale, della voce artistica, quindi sia maestri di canto, vocal coach, insegnanti, cantanti, ma anche logopedisti e foniatri, per farti dialogare appunto la scienza con l'arte, quindi far conoscere a noi professionisti sanitari quali sono le necessità e quali sono le caratteristiche del lavoro dell'artista, e dall'altro lato far conoscere invece all'aspetto didattico quelle che sono le basi fisiologiche che sottintendono il lavoro che loro fanno con i loro allievi. È una cosa interessantissima, è aperta a tutti ovviamente questo ovviamente convegno. Ovviamente aperta a tutti, abbiamo ieri un bellissimo teatro, 400 iscrizioni per ora, quindi. Quanti posti abbiamo? 600, quindi 600. Siamo già a due terzi del teatro. Ed ecco, manca ancora non tantissimo, neanche così poco, ma insomma ci siamo, sbrigatevi. Sì, infatti. Io ci sarò il 27 alle 14. Tu ci sei il 27 alle 14 insieme a Karima e ad Alessio Boni per parlare appunto delle caratteristiche interpretative nel doppiaggio e nell'attività sia dell'attore che del cantante, e poi ci sarà anche Pietro Ghislandi che introdurrai, quindi lui porterà il suo pupazzo e quindi farà la sua ventriloquia con... Che bello, interessantissimo, il ventriloquo è veramente una cosa affascinante. Esatto. Poi parleremo anche di quello, perché sono veramente curioso dove mettere la voce. Io riesco soltanto a bocca chiusa a dire delle cose, ma pochissime, sembra uno intubato in una stanza. Beh, è tutta una tecnica che prevede di non far vedere l'articolazione delle consonanti, dei fonemi consonantici che sono quindi visibili, quindi in particolare le labiali e le lingue dentali, di riuscire a farle appunto nell'interno in modo tale da non far vedere nessun movimento mimico a livello esterno. Esatto. E quindi poi di simulare, quindi magari cambiando anche registro, una voce diversa, quindi far credere che sia un'altra persona o un pupazzo. Io riesco soltanto a dire fatemi fine, fatemi fine a bocca chiusa, ma sembra un pazzo, però non è si proprio articola quello. Proprio così, no, non è proprio questo. Non è, sarà questo il nostro inizio delle tutte. L'altra volta volevamo parlare, era il 40° della morte di Maria Callas, ricordiamolo, per quale motivo e cosa è successo, insomma, perché... Cosa è successo a Roma? Cosa ha abbandonato, perché ha abbandonato? Al Teatro dell'Opera di Roma, nel 2 gennaio del 58, l'inaugurazione della stagione con Norma, i protagonisti erano la Callas e Corelli. Dopo il primo atto la Callas abbandonò le scene, ci fu un grande scandalo, infatti poi per offesa al presidente Gronchi, che era presente in sala, il ministero dell'interno addirittura scrisse che la Callas non doveva cantare più in nessun teatro italiano, però in realtà non era stato fatto nessun affronto, poveraccia, lei non aveva soltanto bizia da diva, ma in quel caso in particolare il 31 di dicembre, quindi due giorni prima, era stata invitata alla RAI perché c'era l'abitudine in RAI di far dare il buon anno agli italiani, certo, attraverso il contatto con un artista, e hanno invitato lei, un personaggio, avevano invitato lei per cantare Casta Diva, per dare appunto il buon anno, ma negli studi RAI c'era molto freddo perché non funzionava il riscaldamento. Lei si era raffreddata. Ma che strana sta cosa, normalmente funziona sempre così tutto. E si era raffreddata, per cui il 2 gennaio, quando Giovanna Lomazzi, la sua amica che la seguiva sempre dappertutto, le telefona il 1 gennaio per farle l'imbocca al lupo e darle il buon anno, dice: ma guarda, sono molto preoccupata, vai a accendere un cero alla Madonna a Milano, la Madonnina, Sant'Ambrogio, perché mi sono raffreddata e non so come farò domani sera a cantare. infatti cantò il primo atto in condizioni di infiammazione, poi durante la pausa, come è ben noto, quando c'è uno stato infiammatorio ci canti sopra, le mucose delle tue corde vocali si gonfiano, all'inizio del secondo atto lei non se la sentì più di entrare in palcoscenico perché sentiva di aver perso completamente la voce. Invece fu detto che se l'era presa perché Corelli aveva avuto più applausi di lei nel primo atto, mentre era semplicemente la superficialità del gossip, un motivo legato alla, a uno stato infiammatorio. E poi lei continuò per quanto tempo ancora a cantare? Non per tanto tempo. No, diciamo che dal 49, dal debutto con Valchiria, cantò fino al 64 con la Carmen, poi fece gli ultimi concerti con Di Stefano cercando di riprendere un decadimento vocale che però l'aveva già comunque ormai provata. Certo. E il motivo è stato dedotto che sì, i vari aneddoti che hanno detto, la tenia che aveva mangiato per dimagrire, sai, queste fantasie, oppure anche le vicissitudini con Onassi. Però in realtà sembra che un medico all'inizio degli anni 70, proprio qui alla Policlinica Umberto I di Roma, le diagnosticò una dermatomiosite vedendo le mani che avevano queste deformazioni e questo colore rossastro della cute. Che cos'è la dermatomiosite? È semplicemente una malattia metabolica che crea delle malformazioni, delle alterazioni a livello strutturale, è una connettività, è una malattia autoimmune, ti crea una rigidità articolatoria, quindi probabilmente anche la scatola laringea non aveva più quella duttilità di un tempo. E c'è da mettere anche in conto che tra le complicanze della dermatomiosite ci sono anche problemi cardiaci. Certo. Quindi non è escluso che magari l'infarto possa essere stato causato da una decadimento da una progressione della malattia. Vedi quanto è importante andare all'interno della notizia. Normalmente se uno si ferma lì, la Callas cantò lì e se ne andò perché aveva dei problemi con il governo italiano. Esatto. I problemi ce l'aveva con se stessa ed era un problema. D'altra parte era importante. Una che era approvata dalla Diamond inferocito, che no, del tipico dell'artista che si consuma e consuma tutto il suo essere dandosi al suo pubblico, ben diverso da un'altra grande, no, che poteva essere, non so, Renata Tebaldi, sì, dalla voce pulita, però sempre molto integerrima, sempre molto controllata e misurata. Sì, ma lei si è data molto di più, cioè si è data in un altro modo. Certamente. A livello emozionale. In un altro modo, poi una vita anche parallela, come dicevano, anche la crisi, Onassis, eccetera, insomma, stava sui giornali anche per altri motivi e la gente non fa altro che certe volte accomunare a puntare l'attenzione su un fatto più leggero che magari una cosa più interna, perché infatti, insomma, è un essere umano. Stiamo consumando questa prima giornata di tutorial non è mai consumata con te, perché è bello sentirti raccontare queste storie, cioè riuscire ad amare un campo così difficile come questo, ma raccontato in maniera così, fra virgolette, semplice e accessibile, sempre affascinante da questo punto di vista. Grazie. Abbiamo il tempo adesso e poi cominceremo questo tutorial. Sì. Voglio chiedere, mi mandano mille messaggi, uno dice quando è meglio fare l'aerosol e quando i suffumigi. È importante è anche questo, però poi cominceremo. Spesso succede, no, che il cantante mi arriva dicendo il medico di base mi ha dato l'aerosol e io sono peggiorata perché mi sento ancora molto più secco. Allora, quando fare l'aerosol e quando fare il suffumigio? Allora, se io sono disidratato perché ho uno stato infiammatorio, quindi una laringite, mi crea un'infiammazione sulla superficie delle mie corde vocali, quindi le mie mucose sono secche. Una delle prerogative principali di una buona salute della corda vocale è essere ben idratata, quindi in questo caso è meglio che io faccia il suffumigio, quindi il fomento, non il cortisone che mi secca, ma il fomento con la camomilla, il bicarbonato, con tutto quello che può essere un errore ambiente. Prendere magari il cortisone in questi momenti quando un cantante o una persona in aerosol sbagliate, eventualmente lo prendiamo per bocca, che non mi va a disidratare, non mi va a creare uno stato di disidratazione a livello delle mucose. Mentre invece il contrario, se io ho fatto uno sforzo, sono andato allo stadio, ho urlato 2 ore, oppure ho fatto una serata in cui ho cantato brani non adatti alla mia estensione vocale, ho forzato sugli acuti, ho fatto una litigata furiosa con mia moglie. Mi sono quindi traumatizzato il bordo della corda vocale, ho creato un edema transitorio, magari acuto, in quel momento il bordo della corda è gonfio gonfio. Allora in quel momento, se io vado a fare il suffumigio, cioè butto calore sulla corda, l'edema aumenta, certo. Mentre invece in questo caso, allora sì che l'aerosol col cortisone, che invece mi aiuta a sfiammare, a decongestionare, a drenare quello che è il contenuto sieroso dell'edema. Per cui prima di mettervi su una pentola oppure fare un aerosol, chiamate magari pensarci. Un bravo motorino che possa dare, ma anche semplicemente sapere se la base medusa è legata a un trauma vocale oppure se invece è uno stato infiammatorio subentrante. Insomma, se strillate gol a piena gola, fatevi il cortisone, meglio l'aerosol. Franco, va bene, allora ricordiamo l'impegno di Ravenna, che è dal 26 al 29 ottobre sì. Al teatro Alighieri, e poi continui a stare con noi, sai Franco, la prossima settimana sempre. Volentieri. Perché cominciamo veramente questa volta davvero questo percorso di pillole di salute vocale. Grazie Franco, a come te. Sempre grazie. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, dopo il grande Franco Fussi che si alternerà in queste settimane con queste pillole vocali di salute vocale. Donatella Pandimiglio invece comincerà subito dopo Franco questi tutorial sul canto, su tutto, su come mettere sulla tecnica vocale. Donatella, raccontare chi sei, ci abbiamo già avuto ospite, significa perdere tutto il blocco per raccontare che tipo di cantante e interprete tu sia, di musical, di spettacoli teatrali importanti, lunghi abbracci con il grande Nicola Piovani, Cerami, eccetera, musical importantissimi. Ho creato anche uno spettacolo dedicato a Vincenzo Cerami che si chiama Pensieri Così, con le musiche di Nicola, tutto lo spettacolo con i testi di Vincenzo e le musiche di Nicola, e sto cercando e tentando di portarlo a Londra, questo spettacolo. E c'è anche la tua passione per Barbara Streisand, insomma, che aspettando Barbara da quando ero piccolissima. Ma praticamente sì, l'ho amata, però io tu puoi pure fulgurazione. Interpretarla, io posso solo amarla, tu la puoi interpretare. Prima Alessia Navarro me la sono sentita di fatto leggere al volo questa cosa di Grande Gatsby, ed è entrata lei in voce dicendo: bene, vi faremo sapere. Allora, visto che ci sei seduto, Nadella, vorrei farti ascoltare una registrazione privata, pochi secondi a casa, di un momento dove Alessia Navarro, sì, grande attrice, brava, ultimo grande successo al Quirino di Roma con Frida Kahlo, insomma, brava, ma tu devi sentirla cantare. Adesso c'è Lauretta mia, eccola, da casa, cantata da Alessia Navarro. Vai. Ho sognata vestita d'argento, ed in angelo sceso dal cielo, e domani vestita di velo. Ecco, no, ancora. Le campane che suonano. Allora io mi vendicherò, sappilo. Sei le prossime diretta. Puntate, tu sappi che le tue pagine saranno in bianco. Non bene. Ti scriverò più nulla. Va bene, improvviserò Navarro. Grazie. La ringrazio di questa. Bene, allora guardate, in mezzo dice fra moglie e marito non mettere il dito, mettilo. Ci metto io invece, che sono molto più del dito. E abbiamo presentato una persona che abbiamo collegamento d'oltreoceano, una tua allieva. La mia allieva, che però sì, è arrivata sì. In America. È arrivata a Los Angeles. C'è? Salve. Eccola. Sì, buon pomeriggio, salve. Ciao, direttamente da Los Angeles. Che ora è adesso a Los Angeles? Sono le 6 di mattina. Ma tu sei... ma perché fai la minatrice a Los Angeles? Non vai a cantare. Ma non puoi essere in piedi alle 6. Assolutamente volevo raccontare, mi faceva piacere raccontare di cosa. Nome e cognome, cosa è successo nella tua vita? Come ti chiami intanto? Allora, mi chiamo Caterina Ciampa. Okay. E nella mia vita è successo, io insomma ho avuto questa strana voglia di voler fare l'attrice e ho avuto la fortuna di incontrare Donatella, che è stata proprio come una stella cometa e mi ha diciamo indirizzata, aiutata e guidata, e ovviamente è stata la mia coach, vocal coach, per un'audizione a Londra che poi mi ha portato qui a Los Angeles, e quindi per questo sarò sempre estremamente legata e grata a Donatella. Per cui questa cosa ti ha portato a Londra a fare un provino, sì. Hai vinto il provino ed essere a Los Angeles a fare i musical. Un provino ora, dove ha fatto Antigone in inglese. Ecco, più a Londra. Io già dirlo in inglese, la parola Antigone mi riesce difficile. dico Caterina, ma in Italia che è successo? Non posso immaginarlo. Purtroppo non sono stata rimbalzata proprio, non è andata bene in Italia, e quindi mi sono trovata anche un po' proprio costretta ad andare fuori se avessi voluto continuare questa mia passione, studiare questa mia passione. Donatella non mi ha mai respinta, però questo è stato... No, perché lei dice sempre, anche questo io la conosco come insegnante, non perdere assolutamente le speranze, lo dico sempre anch'io, nessuno può essere giudice di nessuno. Sì, però insomma l'intelligenza anche di capire che una persona del genere, insomma a Londra non è che prendono... così tutti. No, soprattutto sei italiana, non sei neanche madrelingua. Tra l'altro era proprio un provino fatto da questa accademia americana che faceva audizioni in Europa per scegliere allievi dall'Europa, quindi non, io quando l'ho preparato ho detto guarda, vai, dai il massimo, perché certo, questo è importante, bisogna sempre cercare di dare al meglio il massimo che possiamo, però non ti aspettare niente, nulla. Cosa hai cantato? No. Che cosa hai portato? No, solo recitato. Poi abbiamo invece, quando è arrivata là, doveva, una volta presa già, doveva fare come provino di presentazione all'ingresso dell'Accademia, portare di nuovo un brano, monologo e un pezzo cantato, e allora abbiamo preparato un pezzo di Chorus Line, certo, che ha fatto lì. Beh, io l'ho messa talmente sotto a lavorare. Quale pezzo? Che cosa ti hanno... Diglielo tu, vai. Qual è il pezzo? Dance 10 looks 3. Come fa? Ricordami la melodia un attimo. Dance 10 looks 3 is like to die. Finita, vabbè. L'emozione per telefono. Ma da Los Angeles, poi, insomma, non c'è anche il ritardo. Mi sembra che stiamo facendo come l'atterraggio sulla Luna, che sembra esatto, non sia vero. Sta chiamando da Monteverde. Poi alle Vecchio. 6, appena sveglia. Alle 6, no, non preoccuparti. Però, insomma, ha fatto questo brano e l'abbiamo fatto con tale forza. Complimenti dai professori americani che ancora non mi conoscevano per niente, che mi hanno chiesto se lo avessi interpretato a teatro come ruolo professionale. Insomma. Ma tu gli hai detto che conoscevi anche me, oppure hai fatto solo il nome della Vandimiglio? Perché sai, io lì veicolo molto, cioè, tu hai detto Joe, il mio amico Joe I Teach, mi chiamano lì in America, e Giuseppe insegno in inglese. Giustamente, Joe I Teach. Joe I Teach, loro mi conoscono così, capito? Allora farò il nome sicuramente. Sì, quando ti senti in difficoltà, non te lo giocare immediatamente, quando vedi che qualcosa non va, dice ma scusate, I know, me lo tengo come my friend, my teacher is... Joy Teach, Joy Teach, è tutto un gioco di Teach. Perché, poi, sì, perché Pandimiglio non si riesce a dire in americano. È intraducibile. Pandimiglio è. No, anche vero, insegno è difficile. Insegnao loro mi chiamano lì, a parte scherzi, questo è vero. Fantastico. Mister Insegnao. Lei si è diplomata a maggio, Si è già diplomata. Sì, sì. Adesso già diplomata. Ieri sono stata sul set di questo film che si chiama Heads On, quindi adesso sono, diciamo, anche sono in azione set. Vera. Ah, sei pure sul set? Sì, sì, perché lì insomma ha studiato a Hollywood proprio. Sì, l'accademia. Formano occupati, come facevamo noi nella Corrado Pani, formiamo occupati. Occupati, esatto. Occupando le persone, sì. Certo. Non sì, sì. È ma così. Che bello, Caterina, sono molto contento. Torni in Italia, grazie, o resti grazie. Lì? Mi sa che resti lì, Vediamo, se l'Italia mi vuole io torno anche, però diciamo che l'idea sarebbe rimanere qui. Vabbè, c'è anche io gliel'avevo detto guarda qui. Che tu quando vai là non tornerai più credo. Qui non credo tu proprio. Che poi sei giovane, quanti anni hai, Caterina? Io devo compiere 22 anni a ottobre. E allora sì, stai. Just a little longer. No, stai tu che puoi, noi è inutile che torniamo in America, insomma. Va bene. Per me è tardi. Amore, torna a dormire adesso. Sì, però. Fai un bel riposo. Basta in ansia. Grazie, adesso. Io farò così. E in bocca al lupo per grazie le cose mille. Che stanno nascendo. So che cominci a fare anche delle piccole parti in televisione. Insomma, cominci a fare delle piccole cose. Senti, fai una bella cosa. Vabbè. Non fa il nome nostro. Fallo per trovarci lavoro a me a Vandimiglio lì. Capito? Raccomandaci. Sì, facci sapere una cosa. Bene o male. Qualcosa portiamo a casa io e Pandimi insieme. Va bene? Direi. Ciao tesoro, tanta merda, come si dice. Ciao Caterina, ciao. Beh, queste sono soddisfazioni. È immense, voglio dire, dopo tanti anni. Dici, una che persona, si fa tutto sì, però sei riuscita, grazie alla tua energia, perché sai, dopo che non ti prendono nella tua casa madre, non ti accettano, in qualche modo prendere la forza per andare oltre oceano, oltre manica, dappertutto. Con la voglia, la forza ed essere presa. Insomma, incredibile dai. Che lei ha vinto il provino per l'Accademia Americana e a luglio l'ha saputo, a settembre ha fatto l'esame alla Silvio D'Amico quando già era stata scelta per Los Angeles. Però qui non l'hanno presa. E gli hanno detto no grazie al proprio al primo impatto. Ah, neanche l'ha fatto la prova? No, niente. Già fuori. Però lei aveva già questo biglietto d'argento che sì, ma chi se ne frega, ma ci sta. Io pure quando abbiamo fatto il panino al centro sperimentale, quindi 37 anni fa, con Ciufoli e la Draghetti, ne prendevano 10 e noi siamo arrivati undicesimi, dodicesimi e tredicesimi. Idonei ma non ammessi. Poi ci ho fatto il professore. Sì, ma poi appunto alla, alla fine non sono le accademie. È una cosa positiva che vi può soltanto dare, no? Dice, avete visto, io sono figo. No, no, non lo dico in quel senso, sono stati stupidi loro e bravo io. No, lo dico nel senso che ci si può fare. Io dico sempre, sono un figlio d'altri e se ci sono riuscito io in qualche modo, cominciando dai porno ad arrivare ad oggi, vuol dire che si può fare, dipende dalla vostra volontà, dalla vostra dedizione. Sì, insomma, e poi un po' questo, cioè le scuole sono importanti perché la formazione poi tecnica siamo anche qui, però bisogna avere quella spinta, quella forza, quella voglia di farlo, l'intelligenza di volerlo fare, l'autocritica, l'equilibrio per farlo, la voglia e la spinta. Sognatelo, tanti bei messaggi, noi non disprezziamo i novelli, anzi ai novelli diamo la possibilità di diventare dei professionisti veri. Grandi complimenti a tutti, grazie Donatella, tanto tornerai per tante puntate e farai un tutorial fighissimo, anch'io imparerò qualcosa. Ti metterò alla prova? Ma io sono bravo a cantare, vedremo. Perfettamente, mancano pochi secondi per fortuna, volevo farvi sentire ancora un pezzo di Alessia Navarro, non lo farò. Grazie Mauro Meconi, grazie Alessia Navarro, grazie Rachele, grazie Alessandro, grazie a Milano, grazie a Radio 24, in bocca al lupo e buone trasmissioni a seguire. Ciao! Arrivederci!